Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Vabbè, il nostro l'abbiamo fatto. Arrivederci, chiamiamo il primo comico. Allora, ragazzi, bastardi, venite di qua. Cos'è? Il mercato? Cosa fate di là? Ma venite. Quanto mi sta sul cazzo il cameriere col baffo? Pare che non è il cameriere, ma è il gestore, che ma è ben diverso. Il gestore, cameriere, cioè adesso, come dire, no? Esatto. Bravo, ti vedo in forma. Abbiamo già iniziato bene. C'è qualcuno che sa suonare la batteria? Perché noi abbiamo una batteria, ma nessuno ne sa suonarla. Ci piacerebbe avere un numero con la batteria. Qualcuno? Un batterista in sala? Ma stanno dicendo no apposta. Senti un come percussionista, sono niente? Però perché sono così goduriosi nel dirci no? Se volete, però, amico mio. Signore e signori, Romualdo Grieco, un applauso! È un comico, si esibisce! Una persona che salirà sul palco questa sera. C'è quella ragazza lì col giubbotto rosso che soffre di freddo, che si sta facendo due coglioni così ed è iniziato da due minuti. Cioè, ma ci sta guardando con un astio? Con un sarà astio. Lunga, mettitelo via! Se hai freddo, vai a scaldarti. Sappi che siamo in 12 e faranno tutti 25 minuti a testa. Qui ce ne andiamo all'una e mezza di notte, signore. Quindi. E non si può uscire. Hanno bloccato le uscite. Abbiamo fatto bloccare. Chi è la prima sera che viene qua? C'è qualcuno la prima sera che viene qua? Quindi tutti gli altri sono affezionati. Affezionati? Bello. Sono gli amici tuoi. Cioè. No, no, io quella gente. Cioè. Grazie. Auguri! Grazie, grazie. Faddi è una persona molto triste, molto sola. Vorrebbe avere una festa di compleanno fatta bene. Sa che i suoi amici non gliela faranno mai, sì. Quindi ho organizzato questa sera l'Ex Alge per avere un po' di umanità, un po' di calore. Quindi è 6 mesi che abbiamo deciso di farla di giovedì, perché io sapevo che 6 mesi dopo sarebbe arrivato il giorno del mio compleanno. Un applauso ai 43 anni di Andrea Fadenti. Meno. Ma io volevo chiedere a quelli venuti per la prima volta stasera, a voi, come avete saputo di questa serata? Passaparola? Chi? Lo Stangone. Chi è lo Stangone? Ah, quindi ha invitato un comico. E gli altri invece sono che tutti sono comici, visto delle mani rialzate? Qua. Vivete qui dentro? No, loro stanno bevendo, poi se ne vanno a fanculo, abbiamo rovinato un appuntamento, Primo appuntamento? No, dai, si è vede. È il terzo? No, dai, una coppia giovane. No, ma c'è gente da che quanto tempo uscite insieme? No, ma vivete insieme? 3 anni? Quanto? No, 3 mesi. Oh, vedi, una coppia giovane! Te l'ha già dato il culo? Dai, ma che Dai, ma davvero! Ma no, ma perché poi pensate che io sia qua a fare. No, dà fastidio anche a me che dica queste cose, cioè, perché comunque basta. Vabbè, secondo me siamo in un'epoca in cui certe barriere vanno a forza. Grazie! Sì, ma tu. Tu stai facendo troppo il galletto. Lui perché quando ti abbiamo detto ti esibisci per prima, hai fatto no, no, no, adesso lì fa il bullo da fare. Stai attento. Sai che bravo Romualdo. Secondo mi piace. Me lui è il più matto di tutti. Lui è il più matto di tutti che abbiamo stasera. E stasera abbiamo davvero 3-4 matti, ma di quelli che non si vedevano in circolazione da anni. Ma io un applauso lo farei ai signori temerari. Come sempre, che abitano qua vicino. Che siete i genitori di uno dei gestori, quello che insulto? No. Quale? Quello che dici che è buono. Nessuno di quelli. Ah, quello che mi sta simpatico comunque. Perché facciamo pena a loro due. Sai che arriverà, ma a breve, fra un paio di mesi, una serata in cui ci saranno solo loro due. Ma sì, ma perché loro sono quei signori che ormai i figli sono grandi o sono via di casa, lavorano e trovano due come me e te, siamo i cani che usano per passare il tempo. Siamo quella roba lì, siamo i cuccioli. Secondo me sì. Facciamo un po' pena, un po' tristezza, un po' ci danno i 10 euro per mangiare. Vabbè, non ci va male. Noi ne approfittiamo, non li prendiamo. Che cazzo ce ne frega? Ma la signora sta dicendo una roba? Sì, signora. È lui che è maleducato, maleducato. No, tu invece. Io sono una persona molto educata. Fai parlare la signora. Vada. Silenzio, cos'è? Oh. No, no, silenzio per lei, dicevo. Ah, ogni sera, sì. Ah, sono sempre in ritardo. Ma sì, è quella mezz'ora accademica. No, però noi 10 minuti. Però noi 5 minuti che parliamo. Anche lei mi fa i conti un po' dalla sua parte, porta l'acqua al suo mulino, scusa. La ragazza che prima aveva il giubbotto, quella a cui stiamo sul cazzo, mi ha fatto anche il mimo, no? Mentre diceva, voi 40 minuti, e mi fa un culo così. Sì, Cosa facciamo? Ma perché lei gode? Chiamiamo il primo stronzo, dai. Primo purtroppo è quattro volte che si... Aspetta, per i nuovi arrivati, spiega che tipo di serata è. Sì, ma sono quattro disgraziati. Vabbè, questo... Ho capito, non hanno bisogno. Ci abbiamo sempre la solita battuta che diciamo che la dici tu perché non me la ricordo. Questa è una serata... Quale? Brutta praticamente, non è una serata che è un granché. La facciamo semplicemente perché loro ce l'hanno fare. Abbiamo i comici peggiori che ci sono in circolazione a Milano, quelli che non si esibiscono da nessun'altra parte perché non li vogliono. Ah, se volete divertirvi andate a Che pensi me. Quindi... Se invece volete venire qua, vi piacerà vedere sta roba qua. Ognuno ha i propri gusti. Questa è una sera fratta da brutte persone, però ogni volta c'è una quota bella persona, c'è quindi un bravo ragazzo, brava ragazza. Che abbiamo subito capito e non è lui. No, lui tu sei matto come un cavallo, ma davvero matto. Potresti fare un pezzo incredibile. Mi prometti un pezzo incredibile? Dimmi di sì, che cazzo te ne frega. Vabbè, di più. Va bene, bravo, sei umile. Quindi una bella persona che vedremo a fine serata se sarà venuta, diciamo, dalla parte delle brutte persone o se sarà rimasta buona. Tutto qua, è una serata di merda e quindi chiamiamo il primo comico. Lo presenti tu e perché poi, l'hai portato allora, tu, sì, è un amico tuo e responsabilità tua. Amico, cioè. Allora, il primo comico... È già venuto 3-4 volte. Sì, ha fatto l'apertura l'altra volta, la mettiamo sempre in apertura perché quello lì che alla fine... È carino e di conseguenza il pubblico si focalizza sull'aspetto esteriore e non su quello che fa sul palco che fa cagare. E lui si chiama Francesco Maggioni, cerca sempre di vendersi giocando sul fatto che il suo nome pronunciato velocemente possa sembrare quello di Max Sangioni. Noi siamo caduti in questo tranello, fate un applauso a quel figlio di puttana di Francesco Maggioni. Grazie Vale, sei sempre il solito figlio di puttana ciccione bastardo, però stasera, come a differenza dell'altra volta, l'ospite, chi c'era già la settimana scorsa? Che appunto lui mi aveva chiamato, mi aveva mandato il messaggio, oh Fra, perché io i suoi messaggi io li leggo con la sua voce, quindi ho sentito proprio, Fra, stasera per caso mi puoi ospitare, ho litigato con l'amorosa, comunque stasera l'ospito davvero, ma pare che siano in riappacificazione, comunque... Buonasera, sono Francesco Maggioni, grazie per questo applauso spontaneo che state per fare. Non ho visto prima chi c'era, chi non c'era, chi c'è stato, insomma, vabbè. Io nella vita faccio il doppiatore, ho conosciuto Valerio tramite lo Zoo di 105, perché facciamo lo Zoo di 105 insieme, insomma, questo è quanto. Di solito parlo di cose, doppiaggio, cinema, rotture di cazzo, un po' così. Quindi ho deciso stasera di parlare di una cosa che magari mi compete un po' di più. E che piace anche un po' più a tutti, la figa. Quindi mi compete molto di più, ecco un bel applauso anche qua per la figa, va bene, perfetto. Allora, la figa. Un po' di tempo fa è morta mia nonna. Questa è proprio la prima battuta, proprio così, entra, perché fa ridere, no? La connotazione così, figa mia nonna, non c'entra un cazzo, ma attraverso dei sofisticati sofismi che sentirete in questo pezzo, capirete come ci si arriva. Come dicevo, un po' di tempo fa è morta mia nonna. Lei, essendo un'atea comunista, servitrice del demonio, non ha voluto essere né seppellita né che facessero un funerale, insomma. Voleva direttamente essere cremata. Essendo morta in ospedale, l'hanno tenuta per qualche giorno dentro la cella frigorifera e poi da lì l'hanno buttata direttamente dentro il forno. La cosa curiosa è che è lo stesso procedimento dei sofficini Findus. L'ho assaggiata, non era così croccante. Comunque sia, ho fatto questa battuta che a me fa morire dal ridere una settimana dopo che era morta mia nonna, l'ho fatta ad una festa, ho provato così, c'è stato il gelo più totale, una ragazza scoppia a piangere, se ne va, e allora per provare a sdrammatizzare ho detto vabbè, sto parlando della mia nonna, non della vostra. Comunque questo non è servito a risollevare le sorti del compleanno del piccolo Luca che faceva 8 anni. Comunque mi sono preso la liquidazione, un pezzo di torta di Saitama e Queen che era deliziosa. Comunque sia, è morta mia nonna. Lei viveva in una casa, un podere gigantesco, una villa, una roba tipo Cluedo, no? con tutti i passaggi segreti, così. E fin da quando eravamo piccoli, io e mio cugino vedevamo sta cazzo di mansarda al piano di sopra, che dicevamo, chissà che cazzo c'è, adesso che la puttana era morta, finalmente potevamo entrarci, e con nostra grande sorpresa abbiamo scoperto che non c'era un cazzo di niente, tranne un libro di termodinamica. Un libro apocrifo di termodinamica. Fa ridere usare la scienza come se fosse religione. Cioè, questo era praticamente un libro pieno di postulati, robe mai viste, robe tenute al segreto dalla comunità scientifica. No, allora mi metto a sfogliarlo, comunque sono un mezzo nerd, quindi io mi aspettavo di trovare, che cazzo ne so, il segreto di Willy Lorbo, il tesoro, così, invece un cazzo. Vabbè, comunque, mi metto a sfogliarlo e ad un certo punto mi fermo in un capitolo che aveva un nome molto curioso, ovvero tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Questo è un proverbio che tutti noi conosciamo, no? Che, parafrasato, significa i maschi farebbero qualsiasi cosa per la sacra istituzione, la figa. Ed ecco che ci arriviamo, visto che ci siamo arrivati. Ma perché un proverbio così popolare, così grezzo, si trovava in un libro di termodinamica? Ovviamente mi sono messo a leggere tutta la storia. Siamo in Inghilterra, nel 1800, in piena rivoluzione industriale. Adesso vi attacco un pippone, ragazzi, che si risveglia Piero Angela, veramente, ritorna proprio, basta, così. Siamo nel 1800, rivoluzione industriale, Inghilterra. Il vapore ed il carbone rappresentano la rivoluzione dell'industria, dell'energia. Si parla in particolare di uno scienziato, un certo Jobs, come Steve Jobs, ma questo di nome faceva Blow. Anche questo è forte, perché Blow Jobs, no? Pompino, minchia. Cazzo, non ci torno più. Comunque, si parla di questo Blow Jobs, che sosteneva che il vapore ed il carbone non erano una fonte così ottimale di energia, e andava trovato qualcosa di nuovo. Calcoli su calcoli, fino a che l'illuminazione, per l'appunto, il pelo di figa. Lui sosteneva, folle, folle pazzo, sosteneva che bruciando un singolo pelo si creasse energia cinetica che permettesse a un macchinario di funzionare con un motore più potente di quello di un carro trainato da buoi. Folle. Ovviamente si mise a fare delle sperimentazioni per questo. Ai tempi doveva chiedere per forza peli, ovvero carburante pubico, a delle puttane, pagandole per questo. Quindi ovviamente la comunità scientifica l'aveva uno deriso, perché ai tempi le puttane costavano più che il carbone. E due, perché ovviamente sono degli scienziati, quindi erano tutti ricchioni, sostanzialmente per quello. Quindi no, puttana... Fa sempre ridere la parola ricchioni, incredibile. Comunque. Comunque sia. Fa ancora più ridere Enrico Veronica che ride. Comunque sia. È scienza, ragazzi, questa, E appunto, lui si mise in segreto a fare queste sperimentazioni che finalmente portarono a una svolta. In più, aveva conosciuto una ragazza che credeva in lui. Lei in segreto, invece che andare dalle puttane e pagarle, tipo Caravaggio, no? Una roba così, lei si era veramente affezionata a lui, credeva in lui, e quindi gli donava in segreto questo carburante pubico affinché lui potesse continuare le sue sperimentazioni, che finalmente portarono ad una svolta. Inventò la macchina a pelo di figa. Wow. Incredibile. Lui però non volle presentarla alla comunità di scienziati sbattendogli il cazzo in faccia, proprio dicendogli guarda, ce l'ho fatta. No, lui volle aspettare il 1861. Perché questa data? Chi lo sa? Ma che cazzo, unità d'Italia? Siamo in Inghilterra, testa di cazzo. Ma stai attento, porca ma... Comunque, 1861 ci fu la prima Expo, ragazzi, ve lo ricordate, nel 2015 qua a Milano? Ecco, la prima Expo. Quella del 2015 qua a Milano era sul cibo, il cibo nel mondo, no? Ai tempi invece era proprio sulle moderne tecniche di industria. Ragazzi, c'è anche cultura all'Exalce, cazzo! Lui volle presentarla lì direttamente alla regina Vittoria, proprio così. Quindi aspettò che arrivò l'Expo e finalmente portò quella. Piccola pausa. Ovviamente io, mentre leggevo questa cosa, capivo che qualcosa andrà storto, perché ragionandoci, se tutto avesse funzionato effettivamente ai giorni nostri avremmo invece dei benzinai dei distributori di Silk e Pill, che sarebbe fantastico. E poi soprattutto l'Expo, ragazzi, altro che l'Expo sul cibo, immaginate l'Expo sulla figa, la figa nel mondo. Cioè, allora sì che mi sarei spiegato le 5 ore di coda al padiglione del Giappone, che cazzo, nel 2015 veramente è stato un inferno, ho visto solo quello. Comunque sia, niente, siamo all'Expo 1861. C'è fibrillazione nell'aria, e ovviamente, come tutte le grandi storie, loro due nel frattempo si sono innamorati, ma non hanno mai consumato, perché dovevano portare avanti questa scienza, questa macchina. Sono lì all'Expo con la macchina coperta col telone e sono lì febbricitanti che aspettano l'arrivo della regina Vittoria, che arriva da lontano. Intanto lei però è arrapata e lo guarda e dice signor Jobs, ho voglia di consumare e voglio consumare adesso. Lui è uno sfigato, perché è uno scienziato. Ma tesoro, Pippo, dobbiamo presentare la macchina. Prima che potesse finire questa frase, lei si era già tolta il reggipetto, il reggicalze, il reggi tutto il cazzo del resto, perché, ma quanti cazzo di reggi cosa avevano nell'Ottocento? Si era spogliata e si era buttata dietro un cespuglio e lo aspettava, invitandolo a venire. Lui era lì, sudato marcio, che la guardava la macchina. guardava lei, guardava la macchina. Ma vaffanculo, e si buttò da lei. Consumarono, finalmente trombarono. E questo confermò la sua teoria. Tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Grazie! Francesco Maggioni! No, no. Dice per l'ultima volta, ma non è vero, eroe. Francesco Maggioni! Che hai portato tu. Che è un contatto tuo, come è un contatto tuo... La seconda persona... Ma contatto mio, allora, mi ha scritto su Instagram, mi ha detto posso esibirmi, ha scritto sì. A te o a me? A me, e te non c'hai Instagram? È un contatto tuo. Poi vediamo. Il prossimo comico, vi posso dire che ne avete già avuto un assaggio. Perché a me... Perché gli piace intervenire quando è tra il pubblico. Esatto, vediamo cosa farà sul palco. A me, solo per come si presenta, sembra un emissario di Satana. Quindi... Non è sicuramente la quota bella persona di stasera. Non state con lui dopo nel vicoletto questo qua che è tutto buio. Esatto. Non state con lui da soli. Signore e signori, Romualdo Grieco. Buonasera, buonasera a tutti. Come avete sentito, io sono Romualdo Grieco. Sento che già l'euforia sta calando e mi sto per pisciare sotto, ma cercherò di contenermi e di evitarvi una pioggia dorata, quindi niente. Allora, ho 26 anni, studio mediazione linguistica e culturale a tempo perso, e sono un aspirante comico. Ma in realtà il mio impiego a tempo pieno sono un segaiolo, detto papale papale, è il mio vero impiego, è il mio vero lavoro. E sì, questo è. Vi chiederete come cazzo vi come cazzo mangio eiaculazioni, ragazzi, cioè il pane sembra anche uovo, sa anche un po' di uovo, e niente, sto cercando di espandere il mio business. Sono passato praticamente dai porno classici ai fumetti giapponesi porno. Insomma, uno deve cercare di stimolare la propria fantasia, e poi sono passato ai racconti erotici. Però insomma, dopo cos'è, oramai sono 15 anni di seghe ininterrotte, uno deve cercare di passare allo step successivo e incrementare il fatturato. Quindi mi sono iscritto ad OnlyFans. Vi chiederete a sto punto, se l'obiettivo era insomma sborrare, poteva andare a puttane, no? Poteva essere una soluzione. Sì, poteva essere decisamente una soluzione andare a puttane. Il problema è che vivo con mio padre e non ho la macchina, quindi mi dovrebbe accompagnare lui. Potrebbe essere un'attività piacevole padre e figlio, ma non sarebbe piacevole perché lui è praticamente la fotocopia di me, ma figa. Quindi cioè, veramente lui ha un carisma pazzesco e io praticamente sembro il downgrade. Cioè, quindi... Basta pensare che una volta gli ho presentato una mia compagna di università, visto che era venuta a studiare da me, non ci ho scopato perché giustamente lei mi vedeva come amico, per me invece era una cotta, ma giustamente lei si è presa una cotta per mio padre. La versione mia con i mocassini, che probabilmente se fosse qua farebbe, citerebbe Adriano Celentano a gogo e farebbe più ridere di me, quindi nel senso, ma col cazzo che vado a puttane con mio padre per poi sentirmi il complesso di inferiorità, sono già complessato di mio. Poi sinceramente il sesso è sopravvalutato, cioè diciamo questa verità, soprattutto per le donne, per le ragazze in sala, cioè tutte le volte che avete provato, insomma, un uomo ha provato a darmi un orgasmo magari con la lingua o spingendo, e eravate lì sul limite, e poi questo ha la grandissima idea di cambiare ritmo o cambiare semplicemente posto, e quindi vedete il vostro orgasmo che sfuma così, lo guardate che cade nel cesso, lui tutto contento che magari ha cambiato ritmo, dice gli do diciamo quel guizzo in più, e voi porca puttana che cazzo esulti. In realtà per noi uomini molto spesso è la stessa cosa, perché se per voi donne è importante una volta arrivati al culmine mantenere lo stesso ritmo, per l'uomo, almeno parlo per me, perché non so se questa cosa vale per tutti, ma almeno per quanto riguarda me è importante cambiare ritmo. Invece vedo anche appunto nei porno che molto spesso anche professioniste del settore non cambiano ritmo per un cazzo, e quindi continuano a mantenere lo stesso ritmo, e quindi gran parte dei pornatori giustamente quando eiaculano di solito sborrano in faccia all'attrice, prendono in mano loro la situazione, mica si fanno tirare una sega da sta tizia. Solo poche illuminate ce la fanno, sia lodata Eva Elfi, insegna a tutti come fare, perché non sapete chi è Eva Elfi? No. Eh? Ah, bravo, abbiamo un intenditore. Giustamente. Giustamente, oramai su Pornhub vai quarta classificata Eva Elfi. Allora, credo ci sia ancora Lisa Ann tipo in prima posizione, poi non mi ricordo le altre. No. È già tanto che non vado nelle classificate. No. Lo so, di solito vado a cercare per conto mio, ho i miei nomi personali, insomma, non vado dove va il pubblico. Detto questo, insomma, l'uomo ha bisogno di solito ha bisogno di cambiare ritmo, e quindi c'è questa sorta di modo diverso per raggiungere l'orgasmo tra uomo e donna, quindi dovremmo accordarci e dovremmo, diciamo, cercare di andare da, insomma, metterci d'accordo sui ritmi e cercare di capire, di non fare le cose all'alto che piacciono a noi, insomma, chiedere. Detto questo, quindi il sesso è sempre abbastanza un casino, poi basta pensare ogni volta l'ambaradan col preservativo, oppure il fatto che, insomma, sei in una relazione e la ragazza, giustamente, o comunque la donna, se non vuole avere bambini e non vuole farsi farcire come un bignè, prende la pillola, quindi deve scombussolarsi gli ormoni per poter scopare in tranquillità. Insomma, è un disastro, cioè, soprattutto anche per un introverso come me, è un casino. Quindi io lancerei un hashtag, back to Federica, oppure back to Benito. Cioè, potete scegliere back to Federica, la mano amica, che va bene sia per uomo che per donna, ma anche back to Benito, il tuo dildo preferito, oppure il tuo dito preferito, il tuo plugin, il tuo strap-on, quello che volete. E con questo direi che vado in bagno, che ho un appuntamento di lavoro molto importante, e lascio il microfono a Daniel. Colpa nostra, Romualdo, a saperlo eri l'ultimo. Romualdo Greco! Colpa nostra! Capito noi! Colpa, Romualdo, colpa nostra, sereno. Sei un grande. Noi nasciamo come scopritori di talenti. Qui, ragazzi, non ho parole, signor... Pardon, no, sì. no, ma noi siamo parassiti, cioè noi non abbiamo talento, di conseguenza andiamo a scoprire quello degli altri. Esatto, e si sta venendo benissimo. Un giorno avremo la nostra factory. Vai a no? cagare, Valerio. Questo gruppo di 7-8 potrebbe diventare una roba tipo la Manson Family. Sai che stavo per dirlo io? È facile, è più facile far quello. Tra l'altro ci sono delle persone normali nel pubblico. Sì, come va persone normali? Chi si sente normale qua alzi la mano? Nessuno, neanche uno. Dai, un po' di arroganza. A un certo dai. Punto suggerivi a lui. Sembrava... Ma qua siamo all'ex Alge. Sembrava il milionario. L'aiuto dal pubblico, cos'era? Boh. No, sì, davvero. Ma qua siamo all'ex Alge, ti danno la risposta da stronzo intellettualoide. Ah, ma cos'è la normalità? Si può definire davvero? Sta iniziando a barcollare e ad amoreggiare con l'asta. Di solito è un brutto punto di non ritorno. Quando tendi... Allora, abbiamo detto che andiamo avanti. Abbiamo chi è il terzo? Ci abbiamo due opzioni. Quella che ho detto prima io, che sappiamo sempre che è, o c'è una persona che non è mai venuta qua, ma è un veterano, un professionista. Facciamo votare il pubblico. Alzi la mano per la prima opzione. Qui è la prima... Descrivi la prima opzione. Ma faccio il nome? No, senza nome, senza no, nome. Sono due uomini. Il primo è una... Volete una donna? Terza opzione. E allora, unica donna della sera. Sei Silvia! Sei pronta se ti chiamiamo? Silvia Conti! Mi sembra di aver capito che è una serata sperimentale. Quindi niente stand up, adesso mi concentro, entro nel personaggio. Buonasera e bentrovati alla rubrica Analisi del testo. Do un caloroso benvenuto a tutti i gentili ragazzi del pubblico e con minore calore saluto anche le ragazze presenti in sala, sempre pronte a insidiare il mio fidanzato qui all'ex Alge su Facebook, sgualdrine. Il testo che analizzeremo stasera è tratto da uno scambio epistolare tra due persone legate da un superficiale rapporto di conoscenza. Come cogliere tra le righe le tracce di una tensione sessuale ancora irrisolta? Scopriamolo insieme. Generalmente noi di analisi del testo estrapoliamo i nostri esempi in modo del tutto casuale, ad esempio si tratta di frasi origliate per caso in ufficio appoggiando un bicchiere su una porta ben chiusa, si tratta della corrispondenza dei nostri vicini aperta per errore grazie all'avanza al postino, oppure di testi che voi del pubblico cortesemente estrapolate dagli hard disk dei vostri coinquilini e ci inviate per sottoporli al nostro team di esperti. Casualmente il testo di stasera è tratto dai messaggi Facebook del mio fidanzato Martinelli Piero, che molte di voi già conoscono. A inviarglielo è una certa Angela di Roma. Per chiarirvi il quadro dello scambio conversazionale, Angela di Roma conosce il mio fidanzato perché è fan della trasmissione radiofonica di nicchia che lui conduce talune notti su di un certo network di sinistra lombardo il cui logo è giallo e nero ma di cui non faremo il nome. Angela di Roma e il mio fidanzato si sono incontrati solo una volta per un caffè qualche anno fa, prima che io diventassi la fidanzata di Piero, molto prima. Angela di Roma su Facebook si presenta ai suoi contatti con una foto completamente flashata, talmente flashata da annullarne i lineamenti e da permetterle di dimostrarle meno dei suoi inequivocabili 107 anni. Peraltro pienamente confermati da tutte le foto in cui viene taggata, perché Angela di Roma è così vecchia e stupida da non sapere nemmeno nascondere le foto in cui viene di merda. Tutte foto caratterizzate da profondissime rughe e da labbra sottili, smunte, scarne, a confermare l'ormai conclamata menopausa, instancabile portatrice di adipe addominale, chiappe, flosce e secchezza vaginale. Non vorrei che interpretaste queste mie parole come una forma di rancore o di scarsa simpatia nei confronti di Angela di Roma. Sono informazioni neutre e standard che condivido in modo che voi possiate comprendere il contesto all'interno del quale è stato creato il testo che ci accingiamo ad analizzare e che adesso vi distribuirò. Spero che apprezzerete soprattutto gli ampi margini che ho lasciato per consentirvi di prendere appunti. Ad una prima lettura sembra un testo piuttosto neutro, ma appunto come cogliere gli elementi di una tensione sessuale ancora irrisolta? Analizziamolo. Inizia con Martinelli. La scrivente, Angela di Roma, si rivolge al suo interlocutore con il cognome, con una prassi che di solito è in uso tra colleghi di lavoro, compagni di studio e che indica un certo distacco. Ma che cosa significa quando ad utilizzarla sono due conoscenti? Significa che la scrivente meretrice vuole porre tra i due quel certo erotico distacco che vorrebbe colmare fisicamente. Continua. Non mi leggi più e hai perso un passaggio fondamentale. La scrivente mette subito in atto un piccolo stratagemma passivo-aggressivo, velatamente da brava zoccola, quale ormai sappiamo essere, accusa il ricevente di trascurarle di aver perso interesse per una bacheca che non dubitiamo essere interessantissima. Grazie a questo trucchetto, il ricevente sarà portato a provare un lieve senso di colpa e a scusarsi, specie se il ricevente è un cretino senza spina dorsale come il Martinelli in questione. Io oggi vengo a Milano e resto anche il weekend, continua Angela di Roma. Quanto spesso utilizziamo il pronome io nello scritto? Pochissimo, perché i verbi della nostra lingua non ne hanno bisogno. Ma Angela di Roma lo usa, perché lei ritiene se stessa qualcosa che merita di essere notato. Lei scrive io vengo e converrete tutti che al posto del verbo venire avrebbe potuto utilizzare i verbi giungere, recarsi, arrivare. Quindi ci prendiamo un caffè o addirittura, se hai la trasmissione notturna, potrai venire in radio. All'inizio di questo sintagma la scrivente si propone per un incontro, un caffè, come appunto si fa tra conoscenti, come già fatto tra i due in passato. Poi nell'arco della stessa riga apre una disgiuntiva. Si propone per un caffè oppure per una visita in radio in occasione della trasmissione che lei specifica essere notturna, aggettivo che non serve a niente, non esistendo una trasmissione diurna, ma che lei sceglie di utilizzare, che denota una certa morbosità, quasi a sottintendere che è la notte che accadono le cose migliori e insomma è il tempo notturno il momento ideale per congiungersi carnalmente, tanto nell'immaginario comune quanto nella testa dell'anziana scrivente, tutta lieta di poter beneficiare di quell'assenza di luce naturale che metterebbe impietosamente in risalto le rughe che tanto vorrebbe nascondere. Vi faccio qui notare la seconda occorrenza di un verbo particolarmente caro ad Angela di Roma. Scrive che potrebbe venire in radio. Perché lei già si immagina ansimante, seminuda in uno studio poco illuminato, già impazzisce mentalmente al pensiero di infilarsi jack e microfoni in anfratti poco interessanti e che noi soprattutto amiamo immaginare come secchi e decadenti, mentre al suo fianco quel cretino con le cuffie che risponde al nome di Martinelli Piero abbandona la diretta mandando in onda una selezione di stornelli per approfittare delle delay carni non più freschissime ma in super offerta. I sogni si avverano a volte, conclude Angela di Roma, con questa chiusa al cui afflato è dato da una virgola lasciva e vi prego di cerchiarla e fare tesoro di questo insegnamento. La scrivente si riferisce ancora una volta al suo pervasivo, inestinguibile, dominante desiderio di possedere carnalmente con lui a cui scrive. È il suo sogno e spera anche il sogno di Piero. Ma purtroppo non il mio, che ho risposto ad Angela di Roma con un brillante esempio di inculazio o benevolenze che analizzeremo insieme nel prossimo incontro di analisi del testo. Ringrazio per l'attenzione. Ringrazio per l'attenzione tutti voi, gentili ragazzi del pubblico, e faccio presente alle ragazze presenti in sala che Martinelli Piero è ancora su Facebook, ma da qualche tempo sono io a gestire il suo account. Scrivetemi, mi fa piacerissimo. Silvia Conti! Non so dov'è il mio socio, l'ho chiamato, sta arrivando con un bicchiere di vino, fa sempre più schifo, è sempre più ubriaco. Come va, campione? Ti vedo in forma? Cazzo. Stasera l'hai Silvia detto... Conti! Tua sorella! È morta. No, chi... no, pensavo Silvia Conti, pensavo. No, vuoi sapere una cosa? Vai, dimmi, parliamo di lutti. Aneddote non interessa nessuno. Vai. Che io spesso faccio la gag col mio amico. Come sta tua sorella? Lui mi fa, è morta. E lui la sorella in realtà non ce l'ha. E il problema è che l'ho fatto a un ragazzo, gli faccio, come sta tua sorella? Lui mi fa, è morta. Faccio, come lo sai? No, non l'ho capito. Lui sapeva la gag. Okay, faccio, okay. Gli faccio, come lo sai? E lui mi fa, no, è morta davvero. E succede. E niente, quindi, poverino. Cioè, pace all'anima sua. Che bel pace. Momento, tra l'altro, per presentare il prossimo. Vabbè, comunque, la morte così arriva da un momento all'altro. Cioè, un attimo che ti prende un colpo, pam! Un giorno sei vivo e il giorno dopo... Io te non ti vedo benissimo. E dici che è il momento suo? Mi muori sul palco, sarebbe una cosa molto bella. Allora, chiamiamo lui. Un morto sul palco, sai che sarebbe una roba da mettere a curriculum. Sì, sì, assolutamente. Chi vuole morire sul palco stasera? Chi se la sente? La signora ha alzato la mano, la signora. No, no. Ha no. Fatto le corna, ha fatto not le corna. Not today, signora, not today. Adesso chiamiamo... Io spererei tantissimo... Ma vieni dietro. Io voglio che muoia quel bastardo pelato quanto mi sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo lui. Ma il bastardo pelato viene tutte le volte. È uno di quelli che ci mette più... Allora facciamo morire fra un paio d'anni. E allora un grande appello, che tu pensi che questa serata duri un paio di anni. Sei ottimista. Sei molto ottimista. Se arriviamo a fine stagione facciamo 5 anni. Sì. Se l'Exalge ci fa arrivare a estate 2023 ci leghiamo per altri 5 anni. Facciamo l'importante, un contratto. Io spero vivamente che non ci sia più il bastardo col baffo. È lui. Il giorno in cui molla il bastardo col baffo, io vengo all'Exalge e cago sul palco in modo di festa. Ma vuoi dire qualcosa a lui? Vuoi fare 5 minuti di pezzo? Bravo! Dai che ce li hai! Dai che ti vedo! Ma possono essere anche tutti insulti a lui, Nel 2026 ci sei? 23. Parliamo 4. Che ore sono? Giovedì, proprio siamo su due mondi completamente diversi. Ma io sono solo, lui non ha un microfono. È andata così. Presentiamo il prossimo? Chiamiamo il prossimo. Che stiamo calando. Un applauso ad Andrea Mazzarella! Dov'è? Grande! Che voi direte? Chi cazzo è Andrea Mazzarella? Avete presente, comunisti del cazzo, che non siete altro, quando vi andate a vedere i video intellettuali del terzo segreto di satira? Andrea Mazzarella, il bastardo! Bravo Andrea, grande. Che bel momento che hai creato. proprio bello. Grazie. Si vede, sono proprio il tuo tocco. Sai che ce n'è già andata a mezza sala? Ma infatti, è quello il bello. Infatti andiamo avanti fino chiamerei al prossimo... infatti la punta di diamante, che non la mettiamo alla fine perché alla fine metà sala se n'è andata. Chi è che facciamo esibire adesso? Tu mi vieni dietro? Per forza. Per forza, anche se no non andiamo avanti. Vai! Facciamo esibire un veterano, si esibisce da tanti tanti anni. Un uomo di merda? No, non è un uomo di merda, è un bravo uomo. È la quota bravo ragazzo? È la quota brava persona. È la quota bella persona, ho capito chi è. La quota bella persona. Questo è tuo, vero? Questo è mio e state per vedere davvero qualche cosa che... non si vede tutti i giorni. Io con un grande piacere, davvero con grande piacere, chiamo sul palco Pasqualino Conti. Pasqualino Conti! Grazie, grazie. Ma veramente, sento un po' caldo, scusate. No, non è per farvi vedere la pancia, no, è così, per simpatia. Per il caldo, per non sentire caldo. Ma ci vuole veramente il microfono? Sì. Cosa devo dire? Non salgo su un palco da un paio di mesi, forse anche più, sono arrugginito come un chiodo su una tavola 4 metri. No, voglio iniziare per sdrammatizzare, per raccontarvi un po' qualcosa, come il fatto, le combinazioni, no? Nella vita. Vi racconto cose mie che possono anche non interessarvi, però ve le racconto. Dicevo, che combinazione, no? Cosa può succedere? Sono andato oggi sono andato allo stagno, ho incontrato Giovanni Rada. Che combinazione, no? Un'ora fa ho incontrato un'orafa. Che combinazione. Allora, e mi ha detto: ciao Pasqualino, ciao, come stai? E ho detto: bene, grazie, mi fa piacere vederti. Ha detto: vieni a trovarmi nella mia gioielleria. Ho detto: va bene, con gioia, vengo. Vado, cerco il posto. Sono arrivato e c'era Dario Argento che usciva e Sergio Rubini che entrava. Che combinazione! Sono entrato, avevo sete perché per cercare questo posto ho fatto fatica. Per favore, avete qualche cosa da bere? Ha detto: abbiamo solo acqua brillante. Che combinazione. Allora poi faccio un giro e ci sono dei libri. Dico: scusate, ma cosa ci fanno dei libri in una gioielleria? E mi ha detto: sono una collana. Che combinazione. Poi guardo, c'erano dei quaderni. Io ho detto: ma scusate, dei quaderni? Eh sì, ci sono ad anelli. Vabbè, poi c'erano. Chi c'era più? No, niente, non mi ricordo più niente. Grazie, che combinazione. Ma stasera sono qua per un'altra cosa. Non scrivevo da tantissimo tempo. Oggi, pensando a questa serata, ho scritto una cosa nuova, però un argomento vecchio, una cosa vecchia che facevo. E qua mi diverte perché qua ad un certo punto vi chiederò tutti gli insulti che stasera abbiamo visto e di più, ma c'è una sigla in tre colori. Via con la sigla. Giallo giallo, sempre più giallo, è il giallastro di oggi. Ma no, poi c'è il secondo atto. Noir noir, sempre più noir, è il noir di Seppia. E poi c'è verde verde, sempre più verde, è la mia erba, che sono il vicino. Ok. Piaciuto. La faremo alla fine tutta, ricordatevela. Adesso devo leggerlo perché... qua. Scusate, ha detto veterano, mi ha fatto un po' anziano, ma non è vero, però... vabbè, scusate, mi serve questo qua. fatto bene. Non riuscivo. No, fa ridere di più che poi devo metterli veramente. Ho iniziato a scrivere il titolo, poi mi sono dimenticato del titolo e scrivevo alla fine il titolo non c'entra niente, o quasi. Il titolo è Il cane che morde le code. Chissà dove importa. Il commissario Spedin non ha casi. Gira per casa a caso, sbatte contro spigoli, porte e finestre. No, così te lo stai immaginando? Sente una voce. Pronto, commissario Spedin! Signora Maria! Come sta, commissario? Sono in sbattimento. Perché? E lei? E lei? Ah, no, lei, dammi del tu, testa di cazzo. No, così. Dammi del tu, sono di là, ha detto, lei, la voce ha detto, sono di là. Di là dove? Non te lo dico. Il commissario Spedin sbatte contro un muro, sta ravolto. Vabbè, non insisto. Spedin, ti chiamo per dirti che qua dove sono io ci sono ma una luce su questo cazzo di palco. No, vabbè, ho usato il tablet io. Sì, uso questo tablet da 20 anni. Ah, no, grazie del faro. Faro? E qua c'è per questo faro. Allora, che sono, no, ci vedo. Ci sono un sacco di morti e spariscono. Vabbè, più o meno, dico delle cose così a cazzo. E cosa ci posso fare io, Spedin? No, cosa ci posso fare? Non mi dici dove sei. Sono morta dallo spavento quando ho visto che tutti quelli che arrivano non vogliono più andarsene. Arrivano dispiaciuti e non vogliono più ritornare su questa cazzo di terra a sbattere la testa. E perché? Non abbiamo più, ho scritto non dobbiamo, ma invece non abbiamo più, non vogliamo più, non vogliamo più vedere teste di cazzo, di politici teste di cazzo, e qua divertiamoci, teste di cazzo, figli di puttana, cornuti, che poi è sempre la donna che ci cade, sempre, no? Perché tu dici figli di puttana, e la donna, io dico cornuto, ed è sempre la donna, diventa la donna, e poi... Dai, Maria, dimmene tu qualcuna. Mangia merda. Infami. Infami. Luridi. Luridi, vabbè, tutti. Allora, Spedin a questo punto sbatte la testa contro la nuvola e pensa, non ho più dove sbattere la testa. Signora Maria, ma muoiono anche loro. Sono i puntini, l'ho detta bene? Sì, ma non li rimandiamo, ma noi li rimandiamo indietro. Sì, la signora Maria dice, sì, ma noi li rimandiamo indietro. Che fatica. Il commissario Spedin fa una breve considerazione e pensa... quando andrò là, ucciderò anch'io? La voce dice, non siamo noi che li uccidiamo, giallo giallo, sempre più giallo è il giallastro di oggi. Noir noir, sempre più noir è la noir di seppia. Verde verde, sempre più verde è la mia erba. Che sono il vicino. Olè! Grazie. Grazie. Grazie. Signore e signori, dadaismo puro. Lo trovate solo qui, Pasqualino Conti, un grande regalo di compleanno. Vale, oltre a bere, viene a darmi una mano, cosa facciamo? Sono qua. Sono qua. Pasqualino Conti! Per far notare chi è che porto io, chi è che porta lui. Cioè, per far vedere la differenza, Io posso dirti che li scelgo in base a quanto sono matti. Ok, beh, ma non è che io ho portato Mister Linearità, però vedi la differenza. Lo Sgurz. Pardon? Esatto. Chi mettiamo adesso? Il pelato bastardo. No, il pelato non si esibisce. Sono sempre meno in sala, sono sempre meno. Chiamiamo l'altro, allora, l'altro tuo. Michele Cosentino, sì, l'altro sì. Tuo. Questo è mio, questo è matto, però è matto vero. Cioè, allora, gli altri si scherzano, dicono, ah, è matto, Questo potrebbe ucciderci tu. Potremmo non uscirne vivi da stasera. Guardate la tranquillità che ha prima di esibirsi, guardatelo. La serenità. Lo sguardo. Lo sguardo sereno. Ma sereno un cazzo! Di chissà che farà bene. E se non farà bene, magari sparerà due colpi di pistola. Vabbè, può andare così. Signore e signori, che è un grandissimo piacere che abbiamo qua per la prima sera. E chi dice che sarà l'ultima? Speriamo di no, Michele Cosentino. Me ne vado, Ciao. Anzi, ciao pubblico. Sono molto contento di essere qui. È una domanda di solito. Secondo me non era da fare molto. Poi questa sera ero contento perché sarebbe dovuto venire Andrea Di Marco. Poi l'ho visto al camerino di Zelig, si vede che l'hanno chiamato. E poi ho visto a cena che stava facendo la cena con Raul Cremona e il Mago Forrest. Mica sta fischiando, abbiamo fatto le prove inutilmente, cazzo. Io ho un problema con i maghi, forse ci dovrò lavorare adesso la settimana prossima. Io ho un problema con i maghi perché non li sopporto più. Non so se voi avete questi problemi, cioè vi piacciono i maghi da vedere le carte? Ti piacciono a te? Porca troia, sei l'ultima però, l'unica. Le carte, i piccioni, queste cose qua. A me un po' mi stanno sul cazzo, cioè se sei un mago, vuoi fare il mago, domani mi apri lo speed e mi dimostri che sei capace di fare il mago e io ti do, guarda, ti pago 100 euro di biglietto se mi fai lo speed. Allora, se sei un mago me lo fai veramente. Anche se ce l'ho già, me lo apri con una ruba. Mi fai tutto quello che vuoi fare. Vabbè, io... Sì, ho lavorato un po' con Zelig, devo lavorarci ancora, non è sicuro. Mi tengono sempre sulle corde perché sanno che sono un po' ambivalente. A volte mi diverto, a volte no. Io facevo il cantautore all'inizio, solo che facevamo tante serate, alla fine ci si rompevamo tanti coglioni, allora a un certo punto, visto che ci insultavamo sempre, io e il mio socio, abbiamo deciso di fare uno spettacolo di insulti gratuiti e ci insultavamo proprio a merda, fai schifo tua madre, ti vesti di merda, ti vesti di verde, pesti tutte le merde, cose di questo tipo. A un certo punto ho detto, facciamo una gara di insulti organizzata, facciamo Shakespeare, io faccio Giulietta, perché sennò non faremo mai un cazzo nella vita così. L'abbiamo fatto, ci siamo molto divertiti. E alla fine dello spettacolo, al posto di ucciderci col veleno, con le pistole, con queste cose abbastanza, voglio dire, simboliche, ci uccidevamo con una canzone di Max Pezzali, che invece non è simbolica. Sai sicuro che dove prendi non sbagli, t'ammazza sicuramente. Solo che dovevamo pagargli la SIAE a Max Pezzali, quindi abbiamo cercato di evitare. Allora ne ho scritta una, ci ho messo 10 anni, parla perché è lunghissima. Stasera faccio la versione integrale. Generalmente la faccio tagliata perché quando l'ho fatta alle prove a Milano erano belle, divertenti. Poi il capi mi ha detto, qua ci sono troppi cazzi culi su che devi tagliare. Allora ho fatto la versione censurata. Quindi può piacere o non può piacere, questa è la versione integrale. La faccio solo per voi, non la farò mai più. Grazie a tutti. La prima prima volta l'amore, avevo 22 anni, era una bella ragazza, si chiamava Giovanni. Sono passati dei giorni, sono passati degli anni, ho un figlio che mi somiglia, adesso lei vuole i danni. Se la gente ti sfotte e ti dice sei gay, non ti fare i problemi e te lo inculi dove sei. Se ti prende paura, che te lo dicono in tanti, non ti fare problemi e te li inculi tutti quanti. La gente per bene non mi saluta, poi mi cerca al tramonto e di notte me lo suca. In Italia non lavora più nessuno, anche il Papa l'ha detto, raga fate il digiuno. Ho scritto questa canzone con i preti di zona, che si fuma spinelli è una brava persona e fa i tatuaggi con gli aghi. Se lo cerchi si chiama Don Bacchi. I ragazzi di oggi sono tutti drogati, che si addrogano presto appena nati, ed in bocca c'hanno sempre la sica e all'ostetrica ci lecca la sensibilità. E tutti insieme, oh, oh. Da quando non si vendono più i CD, non c'è più la musica su MTV. Ci sono solo le tipe che si picchiano sempre, con le tette così grosse che fanno le ombre. Le tette giganti fanno spavento, se si girano in fretta scatenano il vento. E sei vicino tu ti siedi, da sopra non si vedono i piedi. Ultimamente ho messo sulla panza, ma non sono di grasso, sono palle di bonza. Oh, ma stai sempre davanti al computer, ragazzo. Mica zio, davanti al frigo non succede mai un cazzo. Oh, oh, se Steve Jobs nasceva in Italia, adesso parlavamo coi piccioni, come i miei nonni nella vecchia Sicilia, che si telefonano coi gettoni. Un cantante famoso mi ha detto, sei uno schifoso, tu non fai le canzoni, fai le barzellette. È vero, gli ho detto, fanno ridere molto, tu invece sei ciccione, c'è le tette. Vado in vacanza a Follonica e mi picchiano col giravite, poi metterò anche tutti i dischi dei Subsonica. E poi minchia basta, perché anche alla tortura c'è un limite. Oh, a Gianluca Grignani io ci batto le mani, ma anche a Marco Masini e a Laura Pausini, che da dietro mette solo un filo e da davanti fa vedere un pelo quando va in Brasile. Ma il migliore è sempre Max Pezzali, che è così rivolto al passato che se gli viene duro un momento è l'ultimo avvenimento. Ma il migliore è sempre Max Pezzali, che è così rivolto al passato che se gli fanno vedere la fica la saluta come una vecchia amica. Oh, no, e poi gli dice, quando ce l'avevo duro sono passati tanti anni fa, adesso prendo un pastiglione ma non è la stessa cosa. Quando ce l'avevo duro sono passati tanti anni fa, adesso prendo un pastiglione ma non è la stessa cosa. Shalala, shalala. E finisce qua. Va bene, ci sono tante cose, gente che fa figli, gente con cui lavori, che fanno figli, tornano al loro paesino, ti chiedono ma dove era quello che faceva Romeo? È tornato al paesino, a Fossano, che però la chiamano Fossangeles, non mi ricordo perché si vede che prima lavoravano tanto in piazza. E allora, a furia di insistere, ti viene una canzone da ricordare che potete dedicarla a tutte le persone che vi stanno accanto, i vostri compagni, i vostri amici, quando si dimostrano veramente dei grandi professionisti. È una canzone molto sensibile che si intitola Sei veramente un coglione. L'ho messa da poco su Spotify, ma l'ascolto solo io, infatti. Ho speso tantissimi soldi durante la pandemia a fare il disco. Non spesi forse troppo, infatti, perché i ristori arrivavano a botte, capito? A botte di 1000, cioè un giorno 1000, la settimana dopo altri 1000. Ma che cazzo siete, drogati all'INPS? Cosa fate? E quindi mi è arrivato tipo il 25, mi sono arrivati tipo 4000 euro tutti i dicembre. Tipo, che cazzo faccio con questi soldi? Facciamo un disco da paura. Ci ho speso 2000 euro alberghi, tantissimi. Infatti adesso gli alberghi non li prendo più. Vengo qua, Adesso vengo qui, poi vado a fare lo zombie a ragù fino alle 3, mi ubriaco, spero che quelli di Zelix siano andati via tutti, sennò poi non lavoro più davvero. E poi mi faccio dalle 3, vado a... come si chiama? Porta Palazzo? No, si chiama... La piazza grossa che avete, così è il Duomo. Vado al Duomo, lo guardo e gli faccio ciao. E poi vado alla stazione alle 6. Questo è il mio modo di fare l'albergo ultimamente, perché ho speso troppi soldi per fare il disco, raga. I dischi sono belli, ma bisogna farli con calma. Adesso non sto registrando altri, cioè sto intortando gente per farli. Ne sto facendo due canzoni a gratis. Non so come faccio, però ci sto riuscendo. Questa è sempre quella di prima, perché tanto la devo fare lo stesso. Adesso ho preso questa parentesi inutile. Si intitola Sei veramente un coglione. Ci siamo vergognati, su Spotify abbiamo scritto canzone seria. Perché? Perché quando le pubblichi sei sempre un coglionazzo, tu per primo. E fa così. Tu sei troppo intelligente, la la la la, e t'ha levato la patente nella faccia delle donne che ti vedono carino. Non lo sanno che in mutande assomiglia ad un bambino. Non lo sanno che sul petto non ti cresce manco un pelo. Ti sei fatto anche il tatuaggio sopra il culo. Non le vedono le foto quando avevi il ciuffo biondo. Ora te lo sei tagliato, vagabondo. Sei veramente un coglione come il cielo. Sei veramente un coglione come il mare. Sei veramente un coglione come il sole. Sei più coglione di me. E ti porto a lavorare, ce ne andiamo giù a Milano, mentre io mi spacco il culo, ti gratti con la mano e mangiamo per la strada una birra ed un panino. E tu giochi a fare canestro col cestino. E mi sbaglierai le note, mi sbagli le battute. Questa notte ti riempio di mazzate. Sei veramente un coglione come il cielo. Sei veramente un coglione come il mare. Sei veramente un coglione come il sole. Sei più coglione di me. Cocorococo, coglione, cocorococo, coglione, cocorococo, coglione, cocorococo, coglione, cocorococo, coglione, cocorococo, coglione, cocorococo. La facciamo tutta integrale, bellissima. Ale, oh, ale, oh, ale, oh, oh, ale, oh. Però non ti fai sentire, non ti fai vedere, con un piede nella fossa e un dito nel sedere. Quando avevi il ciuffo biondo e facevi le capriole, ora te lo sei tagliato e sei un coglione. Sei veramente un coglione come il cielo. Sei veramente un coglione come il mare. Sei veramente un coglione come il sole. Sei più coglione di me. Grazie a tutti, grazie. Io per stasera ho finito. Volevo fare un bis, ma non so se sono in grado di farlo. Poi non so neanche se vale la pena farlo, sai? Che bello. Sei solo tu, eh? Sei solo tu, per farti capire il livello tuo. Poi vedi tu come comportarti. Fai tu, se non ti sembra di esagerare. Te è un'altra disgraziata, che è quella che prima aveva freddo, mi sa, quindi per farti capire chi ti segue. Te la senti? Sì. Proviamo. Facciamo dai, una roba breve? Proviamo a farlo, sì, molto più breve. Perfetto. Sì. Se me la ricordo però, non mi ricordo più un cazzo di quello che dovevo fare. Vabbè, questa si intitola Canale 5. Una canzone dedicata ai tradimenti, che ultimamente li fanno molto in televisione, i tradimenti spudorati. Scritta sul pullman, la faccio veloce perché non me la ricordo, ne volevo fare un'altra però fa più schifo, questa è più decente. Una canzone molto romantica, fa così. La la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la la. La la la la la la la la la. I ragazzi per bene si fanno la foto del pene. Le ragazze per bene non si fanno la foto del pene. Ma le foto alle mani, ai capelli, ai piedi, alla sensibilità. problema di oggi è che la tipa non me la dà. Siamo felici, siamo sempre contenti, sono passati 6 anni. Il problema è che ogni tanto nel sonno lei mi chiama Giovanni. Lei mi dice sei pazzo, ma il problema è di diversa natura. Ma se la sera non torna lei ti mette le corna da paura. Ma ti manco a farla apposta. Parlavamo di filosofia che ti insegna a stare bene da solo, mentre lei si accoppia a Pinerolo. Adesso non me la ricordo veramente, dovrò andare a tentonia, scusatemi. E allora guardo Canale 5 e penso a lei, guardo Uomini e Donne e penso a lei, guardo Temptation Island e penso a lei, guardo C'è posta per te e arriva il pacco, guardo la gente che si litiga perché ci sono le tentazioni. E il tipo adesso vive a Cosenza, con un giovane vuole fare esperienza. Alessia Marcuzzi, circondata dai truzzi, mette pace alle coppie e riconcilierà i pazzi. E ora io adesso mi sento meno solo, mentre vedo la gente cornuta con le tipe a Pinerolo. Guardo la gente che si guarda e litiga sul video, e io non me l'aspettavo proprio. E tanto la canzone è finita in merda perché già non me la ricordavo già in partenza. E questa è stata una buona fine con una buona resistenza, e già siamo pronti alla continuazione con insistenza. E vi saluto qua. Un grande applauso a Michele Cosentino, che alla fine è un ragazzo squisito. Faceva solo paura, ma in realtà è un ragazzo squisito. Adesso tocca a un ragazzo che è già venuto qua. Ora vai, conduco tutto io. Tu continua a bere, fai le tue robe. Vai, vai sereno, tu come non ci fossi. Vai sereno, poi dopo i soldi li dividiamo, pezzo di merda. Non mi aspetti. C'è confusione, vedi? Sai grasso, lì c'è poco. Sai chi chiamare, te lo ricordi almeno? L'abbiamo detto cinque. Aspetta un attimo, Michele Cosentino! Allora, lì c'è la stronza che. Guardala, guardala come mi guarda male. No, sembra più. Lei adesso fa volare le mani. Ce l'ha con lei te. Lei adesso fa volare le mani. No, lei è. Tesa. Lei sembra morta assiderata, è bloccata. No, vuol picchiarci. No, vuol picchiarti, che è diverso. Ma vuoi picchiare tutti e due o solo uno dei due? Sì. Ma tutti e due, vedi? Però io un'ora che cerco di differenziarmi da lui. No, tu hai ragione anche tu. Ognuno gli amici si merita. Se sono tu io sei che mi associo a certe persone. Guardatelo, un pugile. Lui sembra Ensi. Chi è, perdonami? Ensi. Non so chi sia, sono troppo vecchio. Conoscete Ensi? Chi cazzo è, scusate? Quanti anni ha? È la nostra età. È presto! Ma mancano 4 persone, adesso in 30 minuti facciamo fuori. Che potranno fare il cazzo che vogliono, non hanno limiti di tempo. Mancano 4 persone, devono chiudere entro mezzanotte, quindi fate voi i conti. Ci abbiamo, guarda, lo sta scalpitando. Puoi alzarti in piedi e mostrarti al pubblico? Non sei obbligato, te lo dico. Non è che se lo chiedi. Te lo chiedo per favore. Ti alzi e ti risiedi. E lui ti offre una birra. No, io non pago niente. Ti puoi girare verso gli altri? Sì, però tu non è che ti devi far trattare a pesci in faccia così da lui, Ma ha preso un applauso, ma cosa vuoi? Ma quando mai l'ha preso un applauso in vita sua? Te lo dico perché lui è un idiota, cioè. Un bravissimo ragazzo, una bellissima persona. Sai che sei proprio un parassita maledetto. Chi è che dobbiamo far salire? Guarda, lì che sta guarda il pugile, guarda signori, Ibrahimovic che vuole entrare in campo. Ci stiamo un po' arrabattando. Non si vede. Il discorso è questo, volevamo chiamare dei personaggi famosi, non ci siamo riusciti, abbiamo chiamato delle merde e ci siamo riusciti. E uno che lontanamente ricorda un personaggio famoso, quindi fate un applauso a quel sacco di merda che ricorda un pochino Ricky Memphis. Luigi Gino Bianco! Vabbè, il personaggio famoso era Ricky Memphis. Sì, sono io, sono grasso. No, vabbè, ma io ho molta autostima di me stesso. No, scusate, sono gli psicofarmaci. Volevo fare un po' il personaggio, no? Quello che dice, no, ma questo è pazzo. Lo sono. Però volevo presentarmi così a voi. Sono grasso e in più volevo dire una cosa. Mi piace il pesce. Ognuno è libero. L'orata, comunque, cioè, nel senso, ognuno è l'orata. Anche il... No, no, questa è più una battuta. Il pe... L'orata è buona. No, perché sai, la mia ragazza ha detto, no, ma come, ti piace il pe... La mia ragazza, questa è già la prima battuta che è entrata, se sarebbe abbastanza poco credibile, no? Il fatto che io abbia una... avessi o abbia una ragazza o la proprietà linguistica, no? Mi ha detto, no, ma come, ti piace il pesce? Invece ero qui per fare l'amore con te, adesso mi ha tirato i Kinder Pinguin in faccia, Pringles, una storia bellissima, cetrioli. E questo è un po' quello che sono io, Alex Salge. Insomma, grazie, unica persona che ha riso, che per giunta è un comico, quindi vuol dire che il mio percorso artistico sta andando piuttosto bene. E comunque, di che parliamo? Parliamo, qui siamo Alex Salge in Corso Sempione, parliamo di Pasolini, cose impegnate. Non ho voglia di fare cose battute, sai, no, Pasolini, adesso faccio la battuta sui bambini, oh, guardatemi, sono un aspirante comico che fa le battute cattive, no, io sono una persona che fa, io mi chiamo Giglio Bianco di cognome, cioè, quindi vi aspettate cose tipo, esatto, cioè, la prima persona che ride al mio cognome, cioè, capito, di solito un cognome che è piuttosto alto, e invece no, risate in faccia, Frienzon, stanotte mi suicidio, prendo i psicofarmaci dopo essere morto, e questa è quella, la mia vita, e tu mi guardi dall'alto verso il basso con schifo, ma va bene così, sono abituato a essere un vincente. No, vabbè, io vi amo tutti, anche se non vi conosco, vorrei conoscervi, ho un sacco di amici. Simone, parliamo di viaggi. Che bella persona Simone, è stato con me ieri sera, mi ha detto, no, ma sai, ti voglio bene, mi sono commosso, ho chiamato il dottore alle 3:30, ho detto, ho degli amici, ho detto, sì, ce l'ho fatta, Will Hunting, quelle cose un po' così sentimentali, no? E poi mi ha detto, trova il tuo talento, ed eccomi qua, a non far ridere. Comunque, parliamo di viaggi, sì, dopo anch'io fumo quello che stai fumando anche tu. Le sigarette, cioè che Giglio Bianco può fumare le canne, sarebbe piuttosto... Sì, io quando esco di casa sono cattivo. Un pezzo di pane, i pavesini mi chiamano, Mulino Bianco mi hanno chiamato sempre da piccolo. Ma sto divagando, ho solo un quarto d'ora di tempo, io volevo prendermi invece 20 minuti, volevo fare quella cosa nuova, ah, sono pazzo! E invece parliamo di viaggi. Oggi sto un po', mi sto sfogando perché veramente no, una ragazza mi ha detto, ma sai, tu sei carino, hai le labbra carnose, per me è una cosa totalmente nuova, io ho le labbra carnose, cioè io che sono un vincente, ho chiamato Simone, ho detto, guarda, una ragazza mi ha detto che io valgo qualcosa, bellissimo, una cosa totalmente nuova, dopo 4 anni, come i mondiali, sempre che mi qualifico, ho trovato una donna. Parliamo di viaggi, linea al TG2. Bevete quando andate in vacanza e quando fa caldo, è importante. Comunque, io ho scoperto recentemente che non sopporto le persone che viaggiano. Sono un po' quelle persone che dicono, no, ma sai, amo, adoro. Quelli che dicono poi, sai, no, io amo i viaggi perché i viaggi mi rendono felici. Che cosa schifosa, la felicità. Un po' quella cosa, no, i viaggi, la felicità. Per me la felicità non è viaggiare, per me... Voi me lo potete confermare? No, siete comunque persone ricche. Quindi viaggiate un sacco. Non guardarmi così, non sono uno che viaggia, sono dalla Basilicata, quindi quello che faccio è tornare in Basilicata e dire, ah, sono in vacanza. È questo quello che dico io alle ragazze di Milano. Sì, abito vicino al mare, come no. Comunque è successa un po' sta cosa che odio le persone che viaggiano, per me la felicità non è il viaggio, veramente, devo dire la verità, per me la felicità è trovare un taxi che sa esattamente dove portarti, dopo che gli hai comunicato la tua destinazione, perché c'è sempre quella cosa che dici, ma mi porti in Porta Romana? Ah, ma dove? In Porta Romana? Cioè, guarda, sarebbe anche il tuo lavoro, io sono un podologo, quindi, cioè, nel senso, non è compito mio indicarti dove Porta Romana, il tuo sguardo mi fa molta paura, non so come facciate a stare insieme, comunque queste so cose vostre. Sono la prima persona che ha una persona che, a cui sto antipatico, è impossibile che io stia antipatico a qualcuno, sono adorabile. Comunque, per me la felicità è trovare veramente un taxi. Io una volta ho preso un taxi, ero molto arrabbiato, e ho detto, mi porti in Piazza Piola? Lui mi ha detto, ma dove? A Milano? Ho detto, no, in Perù! E ha cercato Perù sul navigatore, ed è apparsa Piazza Piola, e mi ha lasciato a Corvetto, in mezzo a una gang di napoletani che parlavano italiano, ho detto, ma dove sono finito? A Londra! E poi, insomma, questo è un po' quello che è successo quel giorno. E poi ho scoperto che... È perché quando vanno a Londra gli italiani dicono do you speak English? No, ah, pugliese. Devo aggiungere. Ma vabbè. Grazie. E allora ho detto no, ma per me la felicità, sai, non è il viaggio, per me la felicità, l'ho già detto la cosa del taxi, però io la ripeto perché così mi calmo e dico ma andiamo avanti. Secondo me la felicità è scroccare un viaggio, è una cosa che fanno tutte le persone che vivono a Milano, che però sono del nord, perché vivono a Milano e quindi sono del nord, però che sono del nord, non che sono trapiantate dal sud e poi sono andate a Milano. Bisogna imparare a scroccare i viaggi, dovete imparare a scroccare i viaggi, secondo me dobbiamo imparare tutti a scroccare i viaggi alle persone del sud. Le riconoscete perché quando dicono Coca-Cola loro solitamente dicono Coca, e quella è una persona del sud normalissima che ha problemi ad aprire la O. Poi insomma io consiglio sempre di scroccare questo viaggio un po', di dire ah ma tu sei pugliese, la casa vicino al mare, fai finta di essere amico suo ma in realtà non ti interessa nulla, poi vai al mare, dici amo, sto al top, ma in realtà non hai pagato solo non hai pagato l'albergo e stai a casa sua, così ti stai con delle vacanze. C'è un problema però, che io vengo dalla Basilicata. Quindi nessuno mi scrocca un viaggio perché appunto vengo dalla Basilicata. Eh sì, sfigato. La regione famosa per non essere famosa. La regione il cui mare fa invidia a tutte le altre regioni, Molise. E quindi odio un po' queste cose che, del viaggio, no, capito? Che dico, ma che succede? Come funziona? C'è tipo una categoria di persone, sono tipo i colleghi di lavoro, che già a dicembre cominciano tipo a dire ah, ma tu dove vai in vacanza? Ma io alle Maldive, io vado a Formentera, e tu dove vai Luigi? Ah, io alla Rinascente! Dicono, no, ma dove? Ma come? Non vai? Ho detto, no, sì, vado alla Rinascente a comprare una bellissima valigia per il mio prossimo viaggio. E dove andrai di bello? Alla Rinascente! A restituire una valigia per il mio prossimo viaggio. E loro dicono dai, ma non vai in vacanza? No, non vado in vacanza, sono povero. Queste cose così. E poi ci sono quelli bellissimi che dicono no, ma sai, il viaggio mi ha aiutato a ritrovare me stesso. Oh, fucking cute, quella cosa che dici no, ma sai, io da quando sono andato in India ho scoperto davvero che sei no, cioè quelle cose lì, cioè, ma come funziona se stai trovando te stesso? Cioè per esempio stai osservando un paesaggio e dici Santorini, sono pelato, cioè, finalmente ho scoperto me stesso. New York, sono molto pelato, adesso finalmente ho scoperto me stesso, ora posso Cammino di Santiago, non ho i piedi, ora posso andare a Lourdes, ho i piedi, capito? Queste cose, i miracoli, capito, che succedono una volta ogni tanto, ma dici oh, adesso conosco me stesso, no, è fantastico. I viaggi, per chi può farli, quei dannati viaggi che tanto ci fanno penare. E poi c'è, tu hai riso dopo, però in realtà sto facendo un pezzo sul karaoke e tu dici e stai ridendo, vabbè, no, ci sta, sei mio amico. Odio anche il karaoke comunque. Perché odi me? Tu ami il karaoke? E perché mi odi? Perché sono molto bello e mi invidi. Perché sono nero. Non mi interessa, non è compito mio, è 104. Comunque mi odia, sto scemo. Comunque raga, c'è una categoria di persone, tipo sono quelli che sono delle ragazze che tipo quando arriva ottobre, periodo autunnale, quindi ottobre, no, questo volevo dirlo giusto per fare chiarezza, pubblicano una foto in costume a ottobre, mentre sono tipo in ufficio, in Deloitte, che stanno facendo la cacca, e dicono ma qui nessuno mi caga, come posso avere un po' di attenzione, qui ho fatto la cacca, ho fatto consulenza a un cliente, pubblichiamo una foto in costume, e scrivono nel post su Instagram estate mi manchi già. Che è una cosa strana, cioè perché lo fai ad ottobre? Ma poi soprattutto l'estate fa schifo, l'estate è una bruttissima regione? L'estate è una bruttissima stagione, in estate muoiono i vecchi per delle banalissime insolazioni. Se c'è una categoria di persone che dovrebbe pubblicare un post, quelli sono i becchini. Grazie. Loro sì che dovrebbero pubblicare un post su Instagram con un sacco di bare, una a fianco all'altra, con all'interno un sacco di vecchi, morti per delle banalissime insolazioni, e una scritta Summer Memories. E poi c'è bellissimo, no, veramente la cosa che adoro di più sono adoro, sì, anch'io amo morta, Total! C'è bellissimo quella categoria di persone. I turisti stranieri che dicono, che vengono in Italia, dicono: oh, super top, I love Italy, fucking super nice, I love pasta. E io, cioè, io li odio perché sono sempre fottutamente felici. Come cazzo fate? Ogni volta che vado a Londra, non ci sono mai stato, non sono mai felice quando viaggio. Sta cosa che dico, devi essere felice, è una cosa che odio. E ogni volta che loro tipo mi parlano, dicono: oh, you are Italian, yeah, I love Giorgia Meloni. Tipo, cerco un po' di essere un po' più, di farli essere un po' più tristi, di far svanire tutto questo entusiasmo. Tipo li guardo: ah, do you like pasta? Me too, I have cancer, e tipo ste cose. No vabbè, ma ognuno ha le sue, e poi tipo e quindi sai, stomaco e cancro tutto sommato non è poi così male per iniziare una relazione che potrebbe durare da i 6 e gli 8 mesi, che è il periodo per cui, che mi rimane, insomma. E comunque poi c'è ultimissima categoria. Ah no, posso andare con calma, faccio 20 minuti, sono un grande, sono veramente straripante, lo faccio da un anno e mezzo, incredibile, cioè sono già così scarso. Grazie. C'è una l'ultimissima categoria che voglio analizzare qui con voi, sono quelli che su Instagram pubblicano, sì, no, ma lo vedo che mi guardi, c'è una categoria di persone che su Instagram pubblica una foto, un reel per la precisione, reel immerso nell'acqua. Cioè fanno questo reel che parte dai piedi, dico io, ma perché sta cosa che ci devi far vedere i piedi? Cioè totalmente fuori, fanno tipo reel dei piedi, poi inquadro il paesaggio, dico: oh, Santorini, sono pelato. E sono sta cosa un po' che osservano, partono da sti piedi, e io mi chiedo sempre, sovente perché siamo all'Exalge, dico, chissà se tutti pubblichiamo questa cosa dei piedi, chissà cosa pubblicherà Alex Zanardi quando va in vacanza. La testa immersa nell'acqua, hashtag qualcuno mi aiuti. E comunque vorrei concludere dicendo che io non faccio parte di questa categoria di persone che viaggiano perché sono un vincente, e poi soprattutto perché io solitamente quando vado al mare in Basilicata non immergo mai i miei piedi nell'acqua, ci immergo il pene di un altro. Grazie a tutti! Luigi Giglia Bianco! Siamo agli ultimi tre! Luigi Giglio Bianco! È bello che siamo sempre io e te tarati. Adesso abbiamo... È lui? Top player? Allora, lui è un top player, è una persona nostra, cioè non è né mio né suo, è una persona... Che appartiene solo a se stessa, possiamo dire così. È George Best della stand-up comedy, della comicità in generale. Sì. È uno che avrebbe potuto essere il migliore ma ha scelto di non esserlo. No, è vero, sì. È vero. Qui siamo a dei livelli di futurismo. Signore e signori, quel bell'uomo di merda, Pierrico Veronica! Grazie! Sa! È acceso? Si sente? No, questa è bella serata però, Cioè, sono quelle serate che non le vedi in TV, Magari nell'idrometro del boiler qualche volta, ma in TV non la vedi. Allora, qualcuno che magari mi ha visto il mese scorso ha detto: ma come è invecchiato di 25 anni quest'uomo? Come ha fatto? Cioè, dove è stato in quest'ultimo mese? Ebbene, non vi fate ingannare dalla morale di certe serie TV e dalla solita propaganda antisovietica. No, Chernobyl è comunque un bel posticino. Ha i suoi belli scorci. Sono stato lì a fare l'Erasmus. Ora, non perdiamo di vista la strada che decidiamo di fare. Allora, per delle deformazioni sociali o professionali, scusate, mi accentro, tante volte se noi abbiamo deciso di fare una strada e poi ne decidiamo di farne un'altra, ci sono dei problemi. Abbiamo letto tutti la storia di quell'uomo, di quel ragazzo simpaticissimo, amico di tutti, frizzante, che viveva tutto con l'indole come se fosse un animatore di un villaggio turistico di terza categoria, che ha deciso di fare il rapinatore e poi è finita con... Mani in alto! Questa è una figata pazzesca! Mani su! Mani giù! Ma l'hanno facilmente disarmato, ammanettato, portato in questura, picchiato per ore con ancora sulle manette, processato per direttissima, gli hanno dato una pena esemplare ed è giusto, 15 anni di galera in cui è stato sodomizzato giorno e notte, senza poesia, da dei brutti, poi è uscito, naturalmente abbandonato dalla società, messo, ed è morto anche giovane, insomma, vabbè, ecco. Non dobbiamo perdere di vista la strada, se, una, se è quella, boom. Io le ho scelte tutte, le ho sbagliate tutte. Quando ho cominciato già qualche anno fa a esibirmi ho detto, boom, ho fallito ovunque, non posso fallire nel mondo dello spettacolo. Ah, lì no, poi vabbè ho fallito anche lì, comunque. Perché ragazzi, ho detto non posso fallire, perché, ve lo dico da dentro, il mondo dello show business, dello spettacolo, cioè esattamente come si racconta proverbialmente. Un variopinto carrozzone di puttane, nane, ballerini. E ho detto, io non posso fallire. Cioè, sono la sintesi delle tre cose messe insieme. Cioè. Una crasi umana, proprio. Che sono una puttana e un nano è abbastanza palese. Ma avrete notato anche queste mie mosse sinuose. È tutto coreografato, è tutto coreografato, niente lasciato al caso, anche perché aver avuto in sorte un fisichino minuto, sexy, scattante, come un Ether Parisi del 1978 e non sfruttarlo, beh, sarebbe stato un delitto, un inutile spreco di carne e talento. Comunque non ho avuto successo neanche lì. Ora, come Ether Parisi e altre grandi eroine, eroi del nostro tempo, io non pensavo poi di avere quel successo planetario nel mondo dello spettacolo che non ho avuto e mai avrò, me lo sento. Non fate quelli, ma no Henry, sei giovane. Allora, a me bastava, e quello è veramente il mio sogno, cioè non avere il successo, a me bastava diventare un'icona gay. Venerato dal mondo gay in tutto il mondo. Ora, devo dire, nel mio piccolo già ci sono riuscito, eh? È una nicchia molto piccola di omosessuali, violenti, terroristi. Sì, no. Possiamo parlare di omosessualità extraparlamentare. Per loro, loro mi ha, per esempio, una cosa di cui si parla pochissimo in Italia, la frangia omosessuale dell'ISIS impazzisce per me. No, andate a vedere su YouTube. No, pazzesco. Andate a vedere su... Cioè, li avete già visti? Quelli che si fanno esplodere all'urlo di Allahakbar, Henry Veronica, adoro! Boom! Cioè. È una nicchia. È una nicchia. Io punto a quello. Cioè, la mia nicchia è così, eh. Cioè, la mia nicchia è così. Mi fa... Henry Veronica, adoro! Non si capisce se è gay, non è gay, se è un uomo, una donna, se è un flaccone di Vernel, se è una lontra, che è così la mia nicchia. Un po' pressapochista, eh. E poco fisionomista. E, poco, e questa arriva dopo. No, non è vero. Questa non può arrivare. Cioè, non può arrivare. Allora, qual è il mio sogno? Sì, qual è il mio piccolo, innocente sogno? Diventare una icona gay riconosciuta, un'icona gay riconosciuta. Nel mio piccolo ce l'ho fatto. Si può fare di meglio, si può fare sempre di meglio. Io, per esempio, ho cominciato qualche anno fa, io adesso devo guardare che ore sono, perché, sì, perché adesso, ecco, sì, per fortuna. Vi ricordate quando, cioè, perché, da quando è che abbiamo cominciato? 5 minuti? C'ho già il fiatone, in realtà. Anzi, non, scusate, non mi sento bene. No, no, non sto, scusate, c'è un medico in sala? Possibilmente un urologo. Sento un impellente bisogno di un controllino alla prostata. Sì, perché io sono così, come molti di voi, e perdonatemi la schietta volgarità, sono uno di quelli che lavora molto meglio con due dita infilate nel culo. Ora, in generale per le cose della vita, in particolare per le performance di arte drammatica. Naturalmente avete visto che io non stavo controllando l'ora, dovevo vedere il pezzo, la scaletta, e questo era molto prima, e quindi adesso voglio arrivarci, cioè. Ma io avete cercato, io però poi me lo cuccio, me lo taglio e me lo cuccio da solo. Allora, è giusto, è sacrosanto avere delle velleità. Io ho quella dell'icona gay. È una cosa sana avere dei sogni. Tu ti posso dare del tu, no? Cioè potresti essere mia figlia, potresti essere mia figlia, anzi, chi lo sa? Cioè, sai tante volte quei test del DNA sorpresa, Cioè, e anche lì parlo per esperienza personale, poi per forza non me le ricordo i pezzi, guardate che minchiate dico. Allora, poi tante volte sai, quei test del DNA sorpresa che rovinano i cenoni di Natale in famiglia. Parlo per esperienza personale, a me è capitato. Sai quei cugini anziani di terzo grado che abitano dall'altra parte d'Italia, che li hai visti 3 volte nella vita, si presentano al cenone di Natale, non sanno cosa regalarti, ti hanno visto 3 volte... mi ha regalato questo test del DNA a sorpresa, ho scoperto di essere suo figlio. Che lì per lì è una scioccatura, guarda, lì per lì è uno shock, però ha anche i suoi lati positivi, nel mio caso li ha avuti, perché almeno ecco perché il perché di tutta questa mia sana predisposizione all'incesto proprio. Allora almeno lì mi sono messo il cuore in pace, e ho salvato il Natale. Quello è stato il sentimento che ha salvato il Natale. Ah, mamma mia. Stavo dicendo, tu, dandoti del tu, è giusto avere cioè si capisce da un chilometro che in realtà il tuo sogno è aprire una copisteria Esernia, no? Non ti devi vergognare! Dopo Icona Gay è il mio sogno! È il sogno di un sacco di persone aprire una copisteria Esernia. Tesoro, come ti chiami? Anch'io! Devi alzare lo sguardo. Ma sei italiano? Mia mamma no. Di dov'è tua mamma? Basilea, Svizzera. Pensavo adesso mi dice Timbuktu, Basilea. Per fortuna che hanno detto Locarno, sennò... Vabbè, comunque, non devi vergognarti. Tu sai dov'è Esernia? No. Vabbè, fa niente. Tua madre di Basilea, cioè... Comunque non lo so neanch'io. Io scrivo Esernia perché fa ridere come nome. Cioè... Bravo, sì. Tra l'altro, dove un eroe prima di me è salito. Tra l'altro io... È bellissimo, perché questa è una delle classiche serate che quando ti esibisci dici... Cosa vai a fare? Il migliore c'è già stato. Il peggiore è imbattibile. Cioè... Cosa cazzo vai a fare lì? Il miglior medio? Cioè... non ti devi vergognare, i sogni sono belli. Cioè, tu hai questa cosa della copisteria Esernia, ci devi credere fino in fondo. Non ti devi vergognare, guarda. Devi vivere alla grande, Oh, ragazzi... Guardo che ore sono. Ma poi potrei me... Ma perché tutti hanno il foglietto? Potrei farmi un foglietto, no? Mamma mia. Ora, chi mi segue da qualche tempo? Cioè, è un parolone. Diciamo, chi mi ha già visto almeno una volta e dopo 30 secondi, pur di non sentirmi, non si è messo a chattare su WhatsApp col proprio callista... Chi mi segue e mi ha già sentito almeno una volta ha captato, ha notato che io spesso rimaneggio del materiale che ho già scritto, del materiale più antico. Lo faccio spesso. Lo modernizzo, lo attualizzo, lo diluisco, lo miglioro, spesso lo peggioro. Ora, questa cosa del materiale già usato, l'avete già notata, secondo me l'avete notata... Anche perché tutte le battute che faccio sul Vaticano sono incentrate sulla figura di Paolo VI. E no, è perché... È da sto dettaglio, secondo me, che l'avete colta sta roba, vi capisco. Ma io me ne frego e vado avanti. No, come quella... Cazzo ce ne facciamo? No, come... Soprattutto io. Quella, come quella... Quella leggenda, che è assolutamente una boia... No, lo preferisco. Quella leggenda che è assolutamente una boiata, no? Dal punto di vista biologico. Però è tanto bella, no? Quella del calabrone, la sapete, no? La storia del calabrone. Allora che si dice che il calabrone in natura non può volare, però dicono lui non lo sa e vola lo stesso, che bello. Cioè è una boiata, sì, non è vero, però è ammantato così tanto di magica poesia che fa palpitare il nostro cuore fanciullo, no? Io tra l'altro questa storia del calabrone è quella che uso sempre quando arriva la polizia, anche qua parlo di esperienze vissute davvero, quando arriva la polizia mentre mi sto masturbando in fila all'ufficio postale, perché? Che dico, ah no agente, sa perché? Ma sa la storia del calabrone? Cioè io lo sapevo che non potevo, però ho detto magari posso, ma sì alla fine, ma la presente la storia del calabrone? In questo paese... Le istituzioni, le forze dell'ordine se ne sbattono della magica poesia che fa palpitare il nostro cuore fanciullo. Viviamo in un paese senza cuore. Boh, la chiudo qua. Enrico Veronica! Campione, dai, strano, hai sempre del vino in mano. E mancano due signori, un grande applauso per Enrico Veronica. Chiamiamo adesso... Enrico Veronica! Ah. Sai chi chiamare? Allora, la sala è sempre più vuota, però si è seduto Andrea Mazzarella che vale per 4 e sta riempendo lo spazio. E la sala sembra piena! Grande Mazzarella! Un applauso Mazzarella! Facciamo una cosa un po' anarchica. Facciamo una pausa. No. Allora adesso no, che pausa, noi scendiamo dal palco, finito, e voi bevete, fate e poi forse ripartiamo. No, perché ne mancano due, non la ripartiamo più. Beh, proprio no. Però che due coglioni, te che devi sempre fare le cose. Secondo, amico mio. Secondo la lettera. Secondo la lettera. Io volevo far aprire la porta e tirare dentro quelli fuori. Te la senti? Chi è che manca? Vai a chiamare dentro fuori la gente. Però torni dentro nel giro di 20 secondi. Tranquillo. Tranquillo. Intanto io chiamo quello dopo. Chi è? Ne mancano due, non è difficile. Chi chiamerei? No, era l'ultimo lui, proprio una cosa avevamo concordato. Mandami Vitale per ultimo, per favore. Va bene, allora cambio scaletta, Simone Luzzi, vieni, dove sei? Luzzi, ci sei? Simone, è andata così, è Valerio che ha deciso. Gli stronzi. A metà sigaretta, che cazzo, come sta? Tutto bene? Facciamo un applausone! Al Duce. Lo so, questa è la prima regola, fatemi finire prima di essere d'accordo. Ora, se dice che i comici, non bisogna fidarsi dei comici, non vi vogliono davvero bene, è stato vero per tutti quelli che sono arrivati prima di me. Che ora è? 10:30, quindi sarò molto breve perché io voglio bene per davvero. Tornando al Duce, sono uscito di recente con questa ragazza nera da Tinder e direte voi se dice di colore, vi dico direttamente il colore, era nera e praticamente siamo usciti, no sì, era tipo uno specifico terra di siena bruciata, non so se mi spiego, era un colore specifico e siamo usciti qua a Milano e a Porta Venezia, come saprete il quartiere più progressista di Milano, col giardino più progressista d'Italia che paradossalmente si chiama Montanelli. E stiamo usciti lì e se rideva, se scherzava, no? E Tinder, era confidenza. E capite che sono rimasto un po' allenato quando lei a una certa mi guarda dritto negli occhi, come io sto guardando a te, mi guarda dentro l'anima e mi fa: viva il Duce! Tu? Ma che cazzo dici? Ma te sei rincoglionita? Ma che... Poi ci ho pensato, ho fatto: ah, chiaramente per mettermi alla prova. Cioè, non so se mi spiego, cioè mi vedi, no? Bianco, biondo, occhi azzurri, riccio. Statisticamente per lei le possibilità che io rispondessi sì erano abbastanza alte, quindi io faccio tipo no Duce no e prima bisognava dare una copertura, non so, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente, però ci salutiamo, mando un messaggio al mio amico fascista, io faccio non ti piacerà come comincia la storia ma il finale un sacco. Questa battuta di recente mi ha dato un po' di traverso perché ho letto un articolo di Vice, presente Vice, la testata giornalistica online che saprete essere tre spanne sopra Ansa in quanto a affidabilità giornalistica. Mamma mia che monnezza, però titolava questo articolo "Non bisogna sessualizzare le etnie in quanto due punti è razzista". Ora, non so, può essere pure che è vero, ma credo che di sfondare una porta aperta quando dico che non scelgo io quello che mi eccita. Vorrei poter scegliere, in quanto a me piacciono le ragazze basse e magre. Direte voi, beh, a tutti. Però io sono basso e magro. Il mio basso e magro è una nana rachitica malnutrita. Praticamente mi faccio le seghe sulla pubblicità d'Emergency. E questo è... Eh sì, so pure povero, non gli ho mai dato un euro, però sta là e fa tipo, queste persone hanno bisogno di te, che sta, certo che c'ho. E questa è la mia vita, che io fa, sono povero, non c'ho i soldi per Fastweb, devo dire, la televisione. No, vabbè, a parte le cazzate, che non è molto vero, però no, è che credo di essere nel giusto quando dico che i fetish non sono ragionati, no? Non c'è un'argomentazione dietro. Cioè non è che tipo io vedo una nera e faccio tipo quella troia, c'è il ritmo nel sangue, non è quello che penso. Non decido io quello che mi è successo durante l'infanzia, non posso fare wrestling con i miei traumi, non è che vedo un'asiatica e penso chissà come fai i compiti di matematica questo. Non è ragionato. E poi, magari sarò stupido io a pensarlo, ma ho sempre creduto che il discriminante nel sesso sia scopare bene. Non so se mi spiego. Cioè, se io chiamo un idraulico perché mi spara un tubo dentro casa, no? E lui mi aggiusta sto tubo. Lo vedo che fa un ottimo lavoro, tipo con la chiave inglese, no? Cioè, tipo questo lavoro del tricipite. Però se metti caso a metà che mi aggiusta il tubo, se ne esce con... parola mia, questi tubi che esplodono è tutta colpa degli ebrei, no? E là devo un attimo capire, no? Se me lo aggiusta bene il tubo faccio tipo, ma che persona bislacca, no? Però ho fatto un ottimo lavoro, capito? Cioè, quello. In più credo che tutto quello che si fa a letto sia inaccettabile in qualunque contesto, è per questo che si fa in camera, no? E cioè, una domanda, c'è qualche coppia stasera? Ok, però voi due o siete insieme voi? Ok, ora la domanda più intima che ti verrà fatta stasera: hai mai detto tu a lei sei la mia troia? Occhio a come rispondi, perché se dici no è lei che lo dice a te. No, quindi tu gliel'hai mai detto? No. Ok, mi dispiace, condoglianze, però succede. Però metti caso tu gliel'abbia detto, no? A me è successo di dirlo e è accettabile, cioè quasi che gli piaceva, no? Anzi, senza quasi. Però immagina di dirlo in qualunque altro contesto, no? Tipo la prima cena con i suoi genitori. Tipo là, tipo, buone queste bruschette, vostra figlia è la mia troia. Cosa pensi che ti risponde il padre? Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi dei tortellini. Non è... Che cazzo, no, una cosa... Grazie. Tra l'altro credo di aver praticamente finito. Se vi va faccio altri 4 minuti su un argomento diverso. Vi va? Ok. Oh, grazie. Che stelle che siete, grazie. Scoprirei tutti. No, questo è ragionato, però. Questo è ragionato. No, allora, praticamente il primo pezzo che abbia mai scritto fu, perché di 4 anni fa si parla, sul fatto che a 20 anni ero ancora vergine. E ogni volta che lo... No, io sto alla grande, non... mo succede. Ogni tanto, ma succede. Però, ok. Però quello che succedeva ogni volta che finivo sto pezzo, andavo in giro a farlo, mi si fermava sempre qualcuno dopo, sempre qualcuno diverso, ma mi diceva sempre la stessa cosa. E mi diceva, oh, bravo, autoironico. Veniva un nervoso, non so se me lo posso spiegare, cioè è proprio dalla bocca dello stomaco, la bile che sale e lascia una scia di acido e usciva dalla mia bocca con un, ma come cazzo ti permetti? Perché l'autoironia, come tutte le qualità positive di una persona, viene dalla sofferenza. Cioè, vuoi essere empatico, devi sapere cos'è la sofferenza. Vuoi avere degli amici, devi far finta che ti piaccia il calcio. La Juve stasera ha vinto, ok. Se vuoi essere autoironico, devi essere bullizzato, per forza. Cioè, nessuno si insulta se già non lo fanno tutti gli altri. È più un accodarsi al carro che una virtù, no? Un giorno vai a scuola e fai, sai che è? Te. Soffroce, mamma, una puttana, c'è una voce così brutta, quando mi chiama la team mi dice, signora, sì. È quello. E poi, se mi fai complimenti per una cosa del genere, non è davvero un complimento, perché viene dalla sofferenza. Cioè, come se vai da Liliana Segre e gli fai, oh, bel tatuaggio. l'olocausto. No, vabbè, è vero. Qua ci stanno spiegando cos'è Liliana Segre. Il liceo, anche al liti, vabbè, no, niente. Cioè, ce ne è rimasti pochi, è una da ricordarsene. Vabbè. Tra l'altro l'ho incontrata, noi abbiamo riso pensando, no, poraccia, l'ho incontrata la Rinascente un mese fa, stava a comprare i profumi, sta stronza. Ho detto, no, la mia vita, ma c'hai Chanel, ma stai zitta. Vabbè, no, a parte questo, sono stato bullizzato. E non è stata l'esperienza migliore della mia vita. Devo dire però che mi fa piacere che se ne sta parlando un sacco di recente, però c'ho come questa impressione che più se ne parla e tipo più si bullizza. Cosa avete visto? I grafici del bullismo stanno tipo a iperbole. E io credo che sia perché se ne parla nelle scuole, non so come spiegarmi, cioè è lì che stanno i bulli. Non li stiamo combattendo, li stiamo formando. Io so per certo che c'è qualcuno nell'aula magna mentre questi spiegano cos'è il bullismo e sta là e diffondi le foto online. Che cazzo? Io quindi, in quanto ex bullizzato, mi sono arrogato il diritto di creare un nuovo modo per combatterlo e mi sono chiesto chi è la demografica più bullizzata. Secondo voi? Più bullizzati a scuola, chi è? Le ragazze. Le ragazze? Ma che cazzo dici? Tu che scuola sei andato? All'Ambrate. Non dove, che scuola? Liceo scientifico ci sta, sì, no, sì, liceo scientifico sì. Però no, se non le ragazze, chi? I secchioni, i nerd. Solo loro, cioè la maggior parte loro, mo negli anni 80 i gay, però mo tipo, non possiamo, quindi tipo adesso i nerd. I bulli sono moderni pure loro, non è che ci sta un cazzo da fare. E praticamente no, ho visto sta cosa e mi sono detto, come possiamo, cioè, definiamo questa demografica, sono persone molto intelligenti che vanno d'accordo solo fra di loro, potenzialmente vendicativi. Se si vendica, raga, è un macello. Perché ora controllano il mondo, cioè Elon Musk, Steve Jobs, è morto, però tipo Jeff Bezos, questi... È un macello se si vendica. Ti tipo immagina tu un giorno stai sulla tua Tesla e stai tipo lì e guidi, sei un ex bullo e non succede nient'altro che ti arriva un messaggio sulla dash, ti ricordi di me? Fuori strada. È un macello, raga, cazzo di modo è, non so. Poi diranno che chiaramente tipo arriva la scientifica e fa, è stato un errore di programmazione, che paradossalmente è quello che gli dicevi tu al liceo, capito? È stato... Non lo so, ma cioè non si fermeranno neanche lì i droni Amazon con i pacchi bomba, no? I bancomat che te se magna la carta, il bimbi che te brucia il purè, tu stai a casa e fai, oddio, ma che è? Le patate, la ricetta l'ho seguita, ma che cazzo? E l'unico modo, secondo me, per arginare il problema del bullismo è bullizzare tutti. Ma non sei tutti che subiscono. Tu bullizzi e vieni bullizzato, meni, vieni menato, insulti, vieni insultato, derubi, vieni derubato. Che poi, non è così che nascono tutte le amicizie? Secondo me sì. No, più che altro, allora, dovessi dire un pregio del bullismo è che non c'è nessuno che è in grado di dirti i tuoi difetti quanto i bulli. Cioè, tipo, ti hai mai chiesto tipo a un amico tuo stretto, oddio, non capisco qual è il mio problema, ti fa, ah, ma sei in grande, nessuno... Bugiardi tutti, no? Non c'è nessuno quando un bullo dice, allora sei scemo, sei grasso, non ti vorrà mai bene nessuno, fa oh, ok, basta. E tipo, io lo so, perché una volta, cioè, tutto il liceo mi veniva detto sfigato, no? Sfigato, sfigato, e stavo, ma io sono grande, ma che cazzo, no? Ok, ho fatto male sta risata, ok. Ok. Però un giorno stavo in autobus e c'era una signora incinta, seduta, che mi guarda e fa tipo, ah, e me lascia al posto, no? Io faccio tipo, c'hanno ragione, cioè non so come spiegare. Cioè, tutti i problemi che c'hai sono meglio quando sei al corrente che ce l'hai. Non so come dire, fa molto male al cuore sentirsi dire ciccione tutti i giorni. Ma non quanto il diabete fa male al cuore, quindi non so come spiegare. Ok, sono Simone Luzzi, ho finito, e richiamo sul palco. Anche questo al caro Duce. Lo tengo. Ah, beh. Manca Valerio, chiudi. Simone Luzzi qua con me, che adesso. Ora presento. No, ha preso il tuo posto perché tu hai rotto il cazzo a arrivare quando vuoi. Stai, basta, là, stai, c'è stai, lui. Stai. Da qui in poi. Valerio. Sì, ma non prendi una lira tu. Ho capito, capito, ma quei 20 euro li vuoi, li rosicchi. Taccagno di uno. Un grande applauso a Simone Luzzi. E il mio ruolo ora è passare il microfono al prossimo comico. Vuoi annunciarlo tu? Lo farei se sapessi il cognome. Alberto Vitale! A voi pubblico! Grazie. Arrivo, Una bella serata breve. Andrea nel frattempo ha compiuto un altro anno. Allora, siamo quasi a mezzanotte, avranno pensato cosa c'è di carico per tirare un po' sulle persone a quest'ora, delle belle favole, penso sia la cosa ideale per caricare un po' le persone. E, allora sì, io giusto per dimostrarvi, ecco, che non solo sono un pessimo comico, sono anche un pessimo scrittore, ho scritto questo libro di favole, favole per dormire, quindi mi sembra che l'età sia, l'orario sia ideale, l'ho scritto per le mie figlie, però vale anche per voi se volete dormire, figlia a cui voglio molto bene, vabbè, lo cito, insomma, si chiamano Alessia e quell'altra. Il libro di favole si intitola, se vi interessa, Favole per dormire, c'è anche la versione in cinese, Dolmile pel favole. L'ho scritto la scorsa estate, ho partecipato a numerosi premi, sono anche molto contento, ho vinto il premio Andersen Favole da lasciare nel cassetto, il premio Fratelli Grimm Favole da bruciare e il premio Gianni Rodari Favole da dare in pasta ai Doberman, che sono un po' i premi un po' principali di queste categorie. Ho avuto anche delle recensioni positive, sono molto contento, una signora mi ha scritto grazie dopo aver letto il tuo libro, sono molto contenta perché mio figlio non si addormentava mai la notte, dovevo stare accanto a lui tutta la notte sveglia, e ho comprato e ho letto una tua favola, i servizi sociali mi hanno tolto mio figlio e ora dormo benissimo alla sera. Sono quindi molto contento. Ah, ecco, in omaggio voglio dirvelo con questo libro di favole, per creare un po' di atmosfera c'è una candela di cera, in modo che da creare l'atmosfera la diamo una volta sola, perché lo slogan è c'era una volta. Per concludere, questo voglio dire, un libro ecologico, è scritto su carta riciclata, in particolare uso il retro delle letterine di Babbo Natale delle mie figlie. E quindi c'è anche una sorta di romanticismo, perché da un lato serve a far dormire i bambini, dall'altro lato ci sono i sogni che non si avvereranno mai dei miei figli. Va bene, detto questo, vi leggo subito la favola perché è un po' tardino. Ho anche degli occhiali molto brutti che possono, diciamo, sembrare o da intellettuale o da coglione. Sappiate che non leggo un libro da anni. Allora, questa si intitola, questa favola, è una bellissima serata, che, anche di musica posso dire, scusa, ci cito solo una cosa prima della favola, che voglio dirvelo, che il mio idolo, per quanto possa sembrare strano, è Elettra Lamborghini, cioè ci tengo a dirlo, perché è comunque una persona che testimonia dove si può arrivare davvero con l'impegno, la costanza, la tenacia e qualche miliardo di euro esercitato, ereditato dal nonno. Tra l'altro in Trentino sapete che fanno ascoltare la musica classica per far fare più latte alle mucche, e hanno fatto ascoltare Caramello di Elettra Lamborghini. Allora, la produzione di latte non è aumentata, ma quella settimana le mucche hanno cagato in una maniera pazzesca. Allora, favola, il nuovo re della foresta. C'era una volta una foresta in cui abitava un vecchio leone che era considerato da tutti il re della foresta. Ecco, attenzione, perché qua si potrebbe essere interrotti da un bambino particolarmente curioso che può dire, ma scusate, ma i leoni vivono nella savana? Cioè, che ci fa un leone nella giungla? E qui bisogna rispondere che al bambino che è dolce e piccolo e fa queste domande, che tra l'altro è un po' cagacazzi perché la favola è appena iniziata e già lui interrompe, che il leone è grosso e prepotente, quindi se lui vuol vivere nella foresta, vive nella foresta, se vuol vivere in un attico a New York, vive in un attico a New York, e se ne ha voglia, vive anche sotto il letto di bambini particolarmente curiosi. Questo dovrebbe tranquillizzarlo e dormire bene. Allora, torniamo alla favola. Il leone però era molto vecchio e un giorno chiamò a raccolta tutti gli animali. Amici, disse, sono molto vecchio e credo sia giusto eleggere un successore, un nuovo re. Per scegliere l'animale più adatto ho pensato a indire una gara tra di voi attraverso la foresta. Chi vincerà sarà eletto nuovo re, ma vi avviso, chi arriverà ultimo sarà sbranato. Gli animali ci pensarono un po'. Sarebbe stato bello essere eletti re, ma sarebbe stato anche un po' seccante essere triturati dai denti del leone. Alla fine accettarono la sfida solo in quattro. Il lupo, che disse, vincerò io perché sono il più forte. Il pavone, che disse, vincerò io perché sono il più bello. Il topolino, che disse, vincerò io perché sono il più furbo. E l'opossum, che disse, vincerò io perché ho uno zio assessore. Gli animali si misero dunque in fila per partire. Prima il lupo, poi il topolino, poi l'opossum ed in coda ovviamente il pavone. Il leone sbranò un cerbiatto, il cui grido di dolore funse da start e gli animali cominciarono a correre nella foresta. Il topolino però, che era il più furbo, cercò alcune scorciatoie. Se attraverso il lago, pensò, guadagnerò tempo. Solo che non sapeva nuotare, chiese quindi aiuto a una tartaruga. Tartaruga, presto, aiutami, fammi attraversare il lago! La tartaruga rispose, certo, amico topolino, ti aiuterò ad attraversare il lago. Sali sulla mia schiena. Il topolino ci mise quasi 2 ore ad attraversare il lago, perdendo molto tempo. Per recuperare decise di passare attraverso il campo fiorito, ma non sapeva bene la strada e dovette farsi aiutare da chi viveva in quel luogo, una dolce lumachina. Lumaca, svelta, spiegami la strada! La lumachina rispose. Certo, amico topolino, ti aiuterò ad attraversare il campo. Vieni dietro di me. Purtroppo questo fece perdere ulteriore tempo prezioso al topolino, che decise quindi di abbreviare la strada passando sui rami degli alberi. Ma anche lì aveva bisogno di una guida. Si guardò intorno cercando un simpatico scoiattolo, ma sul ramo vide solo un bradipo che lo guardava. E che cazzo, disse il topolino, ma che ci fa un bradipo qui? Ma che sfiga! Però vide che indossava una maglia della Ferrari. E gli disse, bradipo, aiutami! Il bradipo, fan della Ferrari, rispose, certamente, amico, io posso farti attraversare questa foresta in un lampo. Perché era fan della Ferrari, ma era pur sempre un bradipo. 3 ore dopo, finalmente, il topolino arrivò a destinazione. Peccato fosse ormai notte fonda. Era arrivato ultimo e il leone se lo sbranò in un sol boccone, aspirando la coda come uno spaghetto. La gara era stata vinta ore prima dal lupo. Ma il vecchio leone quel giorno era particolarmente affamato. Quindi in un attimo sbranò senza pietà anche il pavone, la tartaruga, la lumaca, il bradipo amante della Ferrari ed anche il lupo che era arrivato primo. Poi elesse come nuovo re l'opossum perché effettivamente doveva un favore all'assessore. Subito dopo però ci ripensò e sbranò anche l'opossum. Ecco una nota per concludere la favola. Vi suggerirei di dire al bimbo dell'inizio della favola, quello a cui avete detto del leone, direi, ti ricordi quando ti ho detto che il leone può dormire anche sotto i letti? Beh, sento un grattare di unghie sotto il tuo letto. Buonanotte e un bacio. Alberto Vitale! Campione, mai una volta che mi dai la soddisfazione di essere già qua, eh? Porco Giuda, che serata difficile. Andiamo. Dai che la chiudiamo. Alberto Vitale! Allora, parliamo delle cose serie, i soldi. Aspetta, tre comunicazioni. Ma l'hai messa la busta? Non hai messo la busta? Sì, ci sono le buste, Valerio, guarda, ah, okay, ci sono le buste. Allora, 3 comunicazioni di servizio, anzi 2. Vai. La prossima serata sarà martedì 29 novembre, perché il signorino fra 2 giovedì ha una serata pagata e quindi abbiamo dovuto spostare. Ora sì. Viste? visto che il signorino la serata pagata, noi dobbiamo spostare la serata e la facciamo martedì 29. Ho capito, ma c'ho due possibilità: venire qui senza essere pagato e andare di là pagato. Infatti io ho detto, tra l'altro, fatti pubblicità, dov'è la serata pagata? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Fra due giovedì, che giorno abbiamo? Mio zio, da Valerio. Ci vediamo martedì 29 novembre. Ci vediamo martedì. Ma il giorno che ho paccato qual è? Non lo so. Aspetta. Sì, potrebbe essere. Il giorno che hai paccato è giovedì 24 novembre. Buonanotte a tutti, signore. No, aspetta, abbiamo delle altre robe. Cosa dobbiamo dire? I soldi! Ci facciamo pubblicità per il 25 o ce ne batte il cazzo? Il 25 cosa facciamo? Facciamo una serata io, te e un'altra persona. Diglielo. Se volete venire a vederci, facciamo mezz'ora io, mezz'ora lui. La bastarda non viene sicuro. Mezz'ora Massimiliano Luizzi, che non so se lo conoscete. Facciamo una serata da un'ora e mezza al Circolo St. Louis in zona Brenta, quindi ci facciamo pubblicità, una serata dove siamo noi tre. Ma questi già non volevano essere a questa, vuoi che vengano il 25? Ci vediamo martedì 29 novembre. Tra l'altro posso dire Circolo St. Louis, locale molto più carino del... Aspetta, volevo... Porco Giuda, non mi va il telefono, porco. Che cazzo? Bestemmio, porco Dio, non è un problema, L'abbiamo sfidato il campione, l'abbiamo sfidato. L'abbiamo detto alla fine. Allora ci sono. Basta! Ci sono delle buste. Tanti auguri, figlio di puttana! Tanti auguri, figlio di puttana! Mia mamma è morta. No, la mia è morta. Lo so. Tanti auguri allora. Grazie. Comunque, ci sono delle buste sui tavoli. Me quello lì mi sta su cazzo. Anche a me. Sì, ma no, fagli. Puoi dargli due schiaffi, ci metti, che sei grosso. Ci metti due. Tu hai pagato l'ingresso stasera? No, è una domanda, non è neutro, è sì o no? No, però questo mi sembra un po' fuori luogo, scusami. Questa è un'uscita un po' omofoba che Alexalge non accettiamo. No, noi qua... Cioè, noi qua no, ragazzi, ste cose proprio... No, noi no, no, no. Del tuo, hai capito? Del tuo. Questa è gente tua, è pubblico che porti tu. Era ieri o oggi? Perché ormai è... Oggi, cioè adesso è passato, era 10 novembre. Vabbè, ma se... Silvia, vuoi fare un altro pezzo, Silvia? No. Silvia, chi è che vuole un pezzo di Silvia? Silvia Conti! Guarda il signore, quando il signore mette il piumino... No, se se ne vanno loro, allora no, è finito lo spettacolo. Signori, tutto questo per dire che... Io voglio fare un applauso alla coppia! Alla coppia che è rimasta! È rimasta! Ma scusa... E andrà in luna di miele! E officerò io! Dicevamo... Se avete degli euro, buttateli in quelle buste per sti ragazzi che si sono esibiti. Non è rimasto più nessuno. Sono rimasti solo i tuoi amici. Signori, sono stati con noi un sacco di persone, provo a dirli tutti. Valerio Airo, il sottoscritto, Romualdo Greco, Simone Luzzi, Pasqualino Conti, Silvia Conti, Alberto Vitale, Rico Veronica, Luigi Giglio Bianco, Michele Cosentino e poi non me lo ricordo più. Sai che ne hai dimenticato uno e ci rimarrà Francesco malissimo. Francesco Maggioni, scusami. Vabbè, Maggioni è dimenticabile, tranquilli. Signori, pardon? Non toccarli allora, lasciali lì. Oh ragazzi, qui c'è gente che ha visto solo 20. Sai che l'ideale sarebbe far finire la serata con quel pizzico di voglia e dici: ma perché è finita? Una proposta, non volevo così, e invece se ne stanno andando tutti. Ho una proposta che mi viene in mente adesso. Facciamo quelle cose che adesso voi potete fare quel cazzo che volete, uscite, non è un problema. Ma io e lui stiamo sul palco finché c'è una persona qua davanti che ci guarda. Andata, sei un grande. Fate quello che volete, noi andiamo avanti a braccio. Potete andare via, la serata... A me lui dà l'idea di uno che vuole fare un pezzo. La sera... Dai! Un attimo, la serata è finita, quindi chi se ne vuole annà, se ne può annà. Se sta qua, le regole sono nostre, cioè non rompesse i coglioni, sennò di là. Sai che secondo me non ci danno i soldi. Ma i soldi va bene, tanto li abbiamo già persi da mo', Valerio. Ho capito, però già ne ce ne danno pochi. Pasqualino, vuoi dire... Pasqualino, vai! Prima sono andato dietro le quinte... Ho incontrato Alberto Camerini, che combinazione. Vabbè, un picco più alto non lo troveremo. Chiudiamo qua. Signore e signori, è stato un onore e un privilegio. Viva la Madonna. Ciao. Grazie Alex Angel.